il computer, stavo vedendo un po' di cose nel computer. Femmine stanno smerciando. Quelle ci so. E allora, no, me la bella non sono i bisogni, ma non per mai usa. Agitava, ma se ne rubarassi, no, mi ci pensate tu. Dato che ne sta accendendo l'aria. E ho messo un brutto gatto. Io ero fuori ieri e poi ho detto questa mattina, aspetta, belle giornate, ieri il sole. E siamo andati Roma stessi. E si cadeva bene. E invece sono entrato, no, che rientrato in Sardegna tempo male. Non se ne comprende usa e lui due di fare le campagne un sole non si prende usa a me tutta l'ora che è costurato per carità è così tipo sì sì oh, proprio non venisce lui nella baracca oh adesso il 12 ne è 21 ne manco strane in te ho separato il buono positivo, eppure ieri questo pranzo che abbiamo visto all'8:30 era nel 524, si può immaginare, 524. E oggi sono tutti letargo, Gio Maria sta dormita ancora o è per nella rete di buco? Senti un poco. Ma questo ragazzi si guarda il televisore e ascolta il baracchino, come gli ascoltoni, no? Presenti ce li hai guardoni, lui è un ascoltone, è tutta legge. Vabbè, ma non fa male a nessuno, me. Non fa male a nessuno, a uno ascolta, no. Meglio di chi c'è da pure a voce buona e importante, invece a me manca ascolta e non da sbattire a nessuno. Chi ascolta e non fa vita. Sì, ma non vuol dire nulla, non vuol dire niente, ma si ascolta, dove venne un bel fase in ascolto. Gio Maria, mi pare che la Dizzo faceva un bel ascolto, mentre faceva Mario Mao, faceva un bel ascolto pure Mario Mao. Già va, già me lo ricordo. Anche io però, già entro qualche volta a salutare, magari di questo governo di cosa, rimango in ascolto. Ma a volte succede anche a me che sono in ascolto, sto governo di cosetti e mi attendo, so che il magazzino, faccio io chi mi magazzino, attendo e accorcio, però sono governo altre cose e non posso pigliare il microfono, qualcosa, a volte capite che tengo qualcuno che sto cosa a me che non tengo una cosa, lo voglio salutare, entro e lo saluto, però entro un attimino e poi, però a volte posso pure io ascolto, ma chi sto governo altre cose, mi attenzione, allora in questo momento non faccio niente, che fai, è già atteso e via, compreso. Eia, oggi mangio fatta a Russia la gravigliarezza, scarobi, un poco di barfetta, ali di pollo, pezzo di pollo, arrucchio, cazzo, non se ne vuoi ci dubbiamo, che era tutto aperto. Ah no, grazie a noi fiagomaro, vai tranquillo che noi fiagomaro, visto. Chi sono i fiagomaro? Ma lo guarda lo finire che sono fiacco. Mi date fastidio, se no se ne esce subito lo piatto, anche melanzane ho fatto, se faccio va bene me ne sale scese in campagna, cosa farà fare, andai Gucci? Positivo, positivo, io vado di venire a casa, però a voi ci avrà attento, dai. Ma ecco, mi è aiutato le scuse, ma è sempre sotto un fondo. E a voi quando scrivo qualcosa io faccio una piastra, una cosa, io pure a voi ce la posso così, fanno tanto faccio a fame. No, che in quella dialettica che c'è, come se che la fai in Natale Brasile. Lo stesso gusto, cucina come il braccere, capito? C'è più buona di farlo in forma, di buchi, invece. E come se fosse in campagna lo posso in la taglia, in la veranda, ci ho messo tre piedi, faccio una graviglia e poi ci pongo un poco di tavola, faccio un pezzo di legna, accendo, o se no aggiungo anche il carbone. E là dai su blu fumo, ma in campagna mi piace, ma la tua casa non mi piace assai. Positivo, positivo. No, io avrei già fatto, tu mi hai battecato da Zalesi. Zalesi arrivi a chi si gasce manni di giori, non so cosa tu hai avuto mai presente, si gasce manni di ferro, arrivi a con le navi, no? E tre pulsavano noi. Le fattore da 25 kg di giorni staccati, compresi. Quando le più tante rimaniamo queste cose, a voi siamo andati a caricare le cantine e non le vogliamo niente, a caso bisogna più documentare questa cosa. Però aveva un tappo, lo tappo era, mi pare che era 1,20 m, fa 1,20 m fa un metro, mi pare che sia, sì, è 1,20 m fa un metro, il suo coso. Io che tappo lì che mi sono buttati a casa, ma gli ho fatto lo gosso, 1,20 m fa un metro, ci ho buttato in ruti, a parte, sono abbatterato lo buccio a mano. E oggi ho fatto assenza aiuto che posso, e poi ho fatto pure la graviglia, manna, e niente, e pensatene, mi scarpa fa mangiare 15 persone e tutta una gravigliata, e che andrò a posto chissà. Per se piattina sopra mi tagliare 4 graviglie di chi ti mangia, chi si tagliano bravi, quando parliamo i vecchi anche crisime, battesime, invece andare in sala non parliamo in campagna, dobbiamo legna, carbone, ma giusto anche di pulizia. E poi mi sono trasligato anche la ragazza del presidente si era fatto il cerco, si era arrivato il fagiolo lì, con tre piedi, con il ruti, quattro bivali, con le ruote, e lo sposto. Beh, la voglia che andava bene, benissimo andava chissà. Va bene, e quasi volevo lo gestino, ma poi va se il faggio più umano, poco e via. Poco la graviglia sopra, per buona buccia, mi trovo lampo, quando poco un po' di legna sotto, gli lampo un po' di carbone sopra la graviglia, mi trovo la sopra, e poi vado due manecci, fa girarla. E una volta me la pongo sopra, non ne capo mai la graviglia, anche riesco a girare, mira, giro in giro alla cosa, io era giro la garra, è compreso, senza cavare la graviglia. Io stesso, quando siamo solo noi, parlo il frizzato, la impulso in la graviglia, e pongo la cosa, rimane sempre a Rugaroli, no? Capito? Pensa che nel cotuzzo, poi tutto alto, quando il cotuzzo va giù Rugaroli, faccio quei piatti di portata, pongo tutti i piatti e pongo in banca. Ma adesso sto parlando, c'è il tavolo lungo, del divento. Pongo detto una patita manna e pongo lo tappo. Poi mi affaccano i braccini, affacco e pongo lo tappo, faccio una patita manna in acciaio e posso man mano che costa nella capo e pongo dentro la patita e pongo lo tappo. Temperatura, madonna, lo sai che faccio molto lo giubbino a mezz'imane che vado no, direi che mi tocca un po' di legna di appena di buco qua. E ci rassegnino in mano anche a casa la sera TV. Oh, così a prendere marame. È positivo, dai, positivo. Proprio nessuno dei bisogni saprà questo, e vabbè, dai, vabbè. Proprio nessuno, nessuno. Ah, tino, un pochettino c'era Gianni, poi mi sembra c'era brutto, poi non me lo ricordo che c'era. Siamo stati un poco, però qui dovevo fare cosa, e allora sono rimasto d'accordo, poi Gianni lo stesso doveva fare cosa, e allora abbiamo sbarrato. E poi Maria già ci sarà, sarà guardando il televisore. Abbascio la cosa, no, che prendo un bel tempo e poi tutto lo credo, senta che abbascio un attimino. E abbascio. Maria, ci sono i due. Ciao, caruccia. Via, ciao, salutoni. Cosa ti sei risvegliata? No, mi sto costruendo l'antenna. A cosa? A Lioncino, un dipolo sto costruendo. Ma il dipolo è il filo, così? È un filo, se no, boh, battuca gli faccio, non so, adesso vediamo, però. Quello che sta a fare con quella robatina che mi hai fatto, cioè si sta a fare un coso, un battuta. Ma il bipolo non è solo il filo, c'è positivo e negativo, invece il bazooka c'ha 5,50 di cavo e la massa la prende dal palo. Scusa grazie, come è il bazooka? Ciao Antone. Ciao, qui. Il bazooka c'ha 5,50 di cavo elettrico in pratica. E la massa la fa il palo, in pratica, è fatto così. Invece il dipolo, quello che faccio io, è 2,74 per braccio. Messo orizzontale, verticale, come vuoi tu. Capito? Senza avere massa del palo. Va isolato, quello lo so. Mi pare che 2,75 giusto più o meno il cavo. Va isolato, quello già lo so, va il polo caldo e il polo freddo, così viene chiamato, vanno messi, c'è insomma una specie di pelle che attacchi dopo il coso, c'è insomma, no, li vendono apposta quel così, io mi sono rimesso a fusare, non cosa neanche, ho già pronti di sa fare, poi tu lì attacchi il cavo da una parte e coso, metti il palo, devo essere isolato quelli lì. Isolate, poi devi fare il vano 2,75, giusto Antone? No, 2,64 è la misura giusta, non 2,75, 2,64 per lo meno, perché c'è dei calcoli con il coefficiente capacitivo, risulta in pratica 2,64 per braccio. Ce li ho me qua segnati giù, dovrei averli, se non li ho dati a qualcuno ce li ho, se io non li ho regalati a qualcuno dovrei averli, perché me l'aveva fatto la buona mia Giancarlo, tutti i tipi di per costruire l'antenna, capito? E ti dico una cosa, per fare un qualcosa, non mi ricordo cosa, ci vuole, non mi ricordo quanto, il cavo dell'antenna della televisione, ce ne va uno spezzone a partire da su del cavo elettrico, e questo c'è un disegno, io me l'ha fatto me l'ha fatto Giancarlo. La buona è Giancarlo, che lui queste cose le sapeva fare, le sapeva costruire. E mettendo, adesso mi ricordo quanto era, 1,30 m, quanto fosse questo, cioè andava questo spezzone di cavo d'antenna di televisione, che faceva, che portava non so che cosa, adesso non mi ricordo che cosa, non so se tu ne sei al corrente, comunque c'è il disegno io. Sì, il modo con quello è in pratica, se poter raccontare l'antenna per avere uno in uno, però se c'hai l'antenna per dire due radiali di mandorla, siccome uno è più lungo, l'altro è più corto, basta aggiungere un pezzo di cavo elettrico, ti fa la misura, cioè scendi a un stazionato che ho fatto io, figurati, risuona, capito? No, nel dipolo, hai capito, costruendo un dipolo, non ce l'ho giù in garage questo, cioè non ha fatto queste misure, ma ha detto che questo c'è spiegato, è scritto perché cosa serve, che ti cambia una, questo cavo dell'antenna della televisione, ti cambia una cosa, non mi ricordo che cosa, hai capito? Ma questo me l'ha costruito, che serva per qualche cosa lì fuori, per qualche altra cosa, radio, non lo so, comunque c'ho il disegno io di questa cosa qua, ci va questo spezzone e ci ha spiegato che le mega S quelle, quell'altro cambia e fa non so che cosa, hai capito? Sì, ho capito già, non c'è problema per quello, ma fai il calcolo, non ci vuole molto a farlo. Aspetta, lo sto costruendo, già rientro fra pago. Positivo, positivo. No, non è, vedendo come me l'ha fatto, come l'ha fatto lui, non è difficile da fare, vedendo come. Poi li vendono già pronti, meglio. Quelli di Polo, mi pare che la pure usare, li vendi già pronti, li sono già pronti. Vabbè, ma quando sono soldi cosa fai? Vado a comprarlo, boh. Siccome fa soldi. E quindi io sto costruendo lui per tanto non volare tutti i giorni. Quando poi sistemano l'antenna lo rimettiamo da qua a posto. Ho capito Antonio, ma vale cosa 15 euro mi, non costa di più. E quello te lo sto dicendo. Costa molto, fai cosa intorno ai 15 euro. Se si lo pagate quindi, boh. Ah, che sono troppi tu dici. Ti ha preso molto 15 euro, per dare cosa ti ha pensato. E avete comprato quello qui di serve. Mi hanno detto che cosa, una fesseria, per chi me l'ha detto a me? A me mi hanno detto anche di meno, ma non ci credo di meno. Ma è poca, dice che ci sono già pronte. Ma tu l'hai mai chiesto quanto costa, Antone? Ma hai chiesto la verità, perché me ne costruisco io dei poli, per dire. Ma... tanto per farlo trovare uno cosa fanno? Faccio un negozio, vado in negozio, mi compro di povero e glielo piazza, boh, cosa me ne faccio da voi? Grazie di così sto. Vabbè, alla fine la sera, detto facendo gratis, è stato per modulare stasera, e domani, qua fino a mercoledì, poi mercoledì si mette, gli saldo questa carica e a posto. Positivo, positivo, no, sta positivo, siccome c'ho delle dipria, ci sono anche delle dipria, già, li vedo già pronti, non ho capito, io non so se poi bisogna comprare questi cosi, o glieli fai tu direttamente anche gli adattatori. Perché non vi prendete l'ombrello e ve ne andate al cinema tutti quanti? Ciao Luigi, ciao Antonello. Giulio. Ciao Luigi. Bella giornata oggi, ma che dai, non è possibile. Positivo, positivo. E aggiungo, no, stavo dicendo, perché tanto non lo so se gli isolatori se li costruisce lui stesso, se no ci sono vendendo, ce li ha Fusaro. E già pronto questi di polo, quanto ho capito, non glielo mai chiesto, però c'è un DPA, che ci sono nel DPA, vuol dire che qualcosa c'ha lui. Insomma, questo pezzo di capo di antenna, di televisione, messo come vano al filare, non è altro che un adattatore di impedenza, no? Perché devi avere 50 ohm, ma facendo così non fai altro che adattare il dipolo all'impedenza giusta dell'ingresso del baracchino, tutto lì, tu intendi dire quello, è senz'altro così. No, è così come hai detto tu, perché c'è scritto così. C'è scritto così, Giulio. E questo era buono di me Giancarlo, lui li costruiva, un vecchio radioamatore, vecchio, non era tanto vecchio, è molto giovane, più o meno, purtroppo ha avuto quella malattia un po' brutta ed è mancato un bel giovane, perché Giancarlo mi pare aveva 62 anni quando è morto, e non era così grande, era giovane, però quella malattia se l'ha portata per diversi anni, l'ha combattuta per diversi anni, poi anzi è riuscita a portarla, io minimo lo conoscevo 4 anni con questa malattia, è riuscita a portarsela così a lungo, non so come mai. Purtroppo non perdona quella malattia. Sì, ma è così, lo so. Io avevo fatto l'antennista per tanti anni, quando facevo l'elettricista, anziché queste cose, è un balon quello, no? E si fa per adattare un tipo di filo, per adattare all'impedenza che uno serve, capito? Sì, che con la misura che lui ha dato, con il capo della TV, filare all'ingresso del baracchino, cioè 50 ohm, tutto questo. Si faceva anche nelle antenne della televisione, quando allora esisteva la piattina come capo di discesa per l'antenna della televisione, che era 300 ohm, siccome il televisore c'era 75 ohm, allora si faceva uno spessone di cavo, si faceva per poter adattare la linea di discesa all'ingresso della televisione. È la stessa cosa, non cambia niente, cambia solo la frequenza, ma l'impedenza si adatta in quel modo lì, capito? Lui ha fatto un adattatore di impedenza, lui praticamente, facendo questo spessone, proprio per adattare il filare alla impedenza di ingresso del baracchino, tutto lì. Positivo, poi te l'avevo fatto vedere, cioè, me l'avevo fatto, stampato queste cose, ce l'ho tutti appesi, avevo fatto cose, me le avevo tutti appesi in garage io, poi te l'avevo fatto vedere, ci sono tanti tipi di antenne da costruire, da fare, ci sono tutte quante le misure, le cose, ce l'ho lì in garage, me l'aveva fatto lui, me l'aveva stampato Giancarlo prima di morire, me l'aveva dato prima che se ne andasse, dai. Sì, beh, perché a secondo della frequenza che uno utilizza ci vuole come misura di adattatore, c'è la lunghezza del cavo, del balo, capito? A secondo della frequenza che devi usare c'è una misura ben specifica, però si può fare in tanti modi, tipo ad esempio, adesso io te lo dico così alla buona, ma è una cosa che vale alla grande. Tu, per dire, devi adattare una linea, non fai altro che prendere uno spessone di filo lungo, che so io, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, quello che è, a seconda della frequenza che devi utilizzare, no? Poi non fai altro che infilare un cacciavite appuntito, in modo che gli fai fare il cortocircuito, la cassa col polo caldo, in vari punti, no? E proprio con lo strumento, tu vedrai che a un certo momento, a forza di cortocircuitare la cassa col polo caldo, ritroverai la risonanza giusta. E questo è scontato, e questo magari è un po' grezza la questione, però così, questo quando uno non sa la misura esatta del balun che si deve effettuare, capito? Però facendo questi tentativi non fai altro che tu infilare dentro il cavo un cacciavite, in modo che la cassa faccia contatto col polo freddo, cioè col polo caldo, ed ecco che a quel punto lì non fai altro che ottenere la misura giusta del balun per l'adattamento dell'impedenza che ti serve, capito? Lui. Positivo, vabbè, già io già non è cosa mia, io rompo quella che ho l'antenna, no, non me ne metto di queste grattacappe, no, ma però stavo dicendo, no, a Pompugna, che mi pare che c'è da Antonello, Antonello si chiama, Fusaro, Antonello si chiama Antonello. Se Antonello è l'afro, Tonino è l'afro, non è Tonino, non è Antonello, se no è mai. Ma che ce l'ha già pronti, ho detto, quei bimbole, non dovrebbero costare neanche molto, ma per non stare uno mattanese e fende, vedo già pronte, mi pare. Beh, sicuramente esistono i bimboli già pronti, non ci sono dubbi, adesso non so se ce li ha posato, però esistono al 100% e non ci sono dubbi, ma per tutte le frequenze, anzi ci sono anche i dipoli decametrici che con un solo dipolo fa diverse frequenze. Io ce l'avevo, l'avevo regalato alla buon'anima di Emanuele, l'avevo regalato, faceva dai 10 metri fino agli 80 metri, ti puoi immaginare, faceva tutte le frequenze. Naturalmente ci sono i sintetizzatori, ci sono, no? Di volta in volta, in modo che possano risuonare a varie frequenze, ma quello è tutto un altro discorso, è tutto un altro discorso, lui. Insomma, diciamo, se uno deve fare un dipolo per una determinata frequenza è più semplice, ma se lo devi fare per varie frequenze allora il discorso cambia, anche perché ci vogliono parecchi metri di più a seconda delle frequenze che devi avere, capito? Abbiamo lasciato a Graziano in parcheggio, siamo messi a pulire e c'era anche Antonello, se no. Avanti Graziano, che l'abbiamo lasciato in parcheggio, dai. Ehi, ciao Giulio! decidi anche tu. Ciao Antonello. Poi c'è anche questo, lui, che la lunghezza del dipolo è subordinata anche alla sezione del filo, non è solamente così, perché può essere, per dire, per questa frequenza, per la 27, può essere 2,75, ma può essere anche molto più corto, ad esempio addirittura anche 2,64, per dire, no? Perché? Perché dipende sempre dalla sezione del filo che uno usa anche, perché non è solamente un fatto di lunghezza fisica, eccetera, ma anche di sezione quando si tratta del dipolo. Vabbè, comunque, andiamo avanti, dai, cose tecniche che me ritengo per me, perché una volta le facevo, ma adesso è inutile spiegarle, ma tanto si va niente. Oggi abbiamo le antenne verticali, sono le migliori sicuramente. Avanti Antonetto. Cioè, così infatti, 2064 non mi sono aggiustato. Infatti io la sezione di cavo da 2, più che altro. Poi c'è addirittura il bazooka, quello che vendono, che ha il cavo molto più fine, se lo fai 5,50 è perfetto, è una bomba. L'ho fatto io, un giorno ho staccato, mi hanno regalato un bazooka, io ho tolto quel filo fine, neanche di un millimetro, gli ho messo la 2, gli ho fatto 5,50 a prima aggancio, agganciato, mi ha fatto un euro esattuale, va benissimo, e l'ho regalato a un amico, l'ho regalato, si è messo in banca, funziona benissimo. Ok, allora, sì, beh certo, infatti a seconda della sezione del cavo io si usa, noi se dovessimo addentrarci bene proprio, allora comincia a essere anche più complesso, perché c'è da considerare anche la linea di discesa, eccetera, eccetera, perché ad esempio noi abbiamo la lunghezza d'onda 11 metri, no? Dice metto 11 metri di cavo, e no, è sbagliato, diciamo che va bene ugualmente, non è che non va bene, però non è la misura giusta della lunghezza del cavo che vuole, cioè matematicamente non è quella, c'è un calcolo da fare in base alla velocità di trasmissione del cavo, perché se usi un tipo di cavo ha una velocità di trasmissione, se ne usi un altro ne ha anche un altro e così via, dunque ci sono dei parametri ben precisi da tenere in considerazione, sempre che uno voglia fare delle cose matematicamente e tecnicamente perfette, se no uno dice 11 metri, ne bastano 11 metri e mezzo, no, magari ce ne servono 11,50, tanto per fare un esempio, questi 50 centimetri ci sono in più, no, non sono in più, se noi parliamo teoricamente non sono in più, ci vogliono e basta, ho capito, però dice ma mi basta, tagliali, però con qualcosa è perso, ci sono tante cose da considerare, no? Ci vuole la mente molto, molto grande per fare certi calcoli, non voglio monopolizzare, avanti lui. Positivo, però una cosa volevo dire, io non è che questo, io quando metto a fare faccio così, perché io da me ho fatto, mi pare che ho fatto 33 metri, ho fatto 33 metri perché 22 non mi bastava, andando a queste misure qua, invece la buonanima Giancarlo mi ha detto, no, dice, fai quanto ti basta arrivare. Io però ho tenuto quelle misure, Giulio, io mi sono tenuto a quelle misure lì, però lui mi ha detto, dice basta quanto serve, mi ha detto a me, poi questo non so se è vero o se è sbagliato, capito Giulio, però il cavo che scende dall'antenna dal tetto, io ripeto, perché 22 metri non mi bastava e l'ho fatto 33 metri. E l'ho preso il cavo, l'ho fatto da 33 metri, più lungo, l'ho un po' allungato in giro, però l'ho preso da 33, perché non mi ci bastava, 22 me ne mancava, e da 33 era un po', c'era una decina di metri in più, quasi quasi, non 10 no, ma 5 o 6 metri in più ce n'era. E niente, invece la buona Giancarlo mi ha detto che bastava quello che ti serviva arrivare dentro casa e basta, dice non aveva importanza. L'interessante è che superava un limite, doveva superare un limite. Adesso mi ricordo se era il limite di 11 o di quanto è. E appunto, te l'ho detto anch'io poc'anzi, se te ne servono per dire 11 metri, ti bastano uno, si accontenta, lo taglia, però matematicamente non è perfetta la lunghezza della discesa del cavo, capito? Cioè uno deve fare dei calcoli ben precisi se vuole fare un lavoro veramente perfetto. complicato, ad ogni modo te lo spiego subito. Deve fare la velocità della luce, cioè no, 300.000 diviso per la frequenza dei centro, dei 40 canali, che è praticamente il canale 20, che se corrisponde, mi sembra, a 27.205, se ricordo bene, no? Allora fai 300.000 diviso 27.205, ripeto, che sarebbe 27 MHz, cioè 205 il canale, no? E corrisponde al canale 20, è uguale, aspetta, sto facendo qua la calcolatrice, 12, 28, 11 e 27, praticamente ti dà la lunghezza d'onda del canale 20 è di 11 e 27, e quello va fatto per il cavo di trasmissione. Cosa stai usando? L'RJ58, tanto per fare un esempio, ecco, l'RJ58 ha una velocità di trasmissione di 0,66 e fai allora 11 metri, 0,27 per 0,66 e ti fa 7, aspetta, ti faccio il conto, 12, 7, 7 e 28 circa, 7, 27 e 8, e dove fai? Diviso 4, aspetta, quello calcolato c'è sempre, diviso 4 e fa 1,82, diviso 4, 1,82, è un multiplo. Ecco, a questo punto devi aumentare sino ad arrivare esattamente 25, servono 14, 18, 18, 23, 23, 25 metri, e diventano 25 e 48. Capito? Ad esempio, se a te ti servono 25 metri di discesa, no? Tu mi dici, ma 25 metri mi bastano, giusti? Ecco, per l'esattezza ce ne vogliono 25 metri e 48 centimetri, usando il cavo RJ58 che ha la velocità di trasmissione 0,66, capito lui? Sicché tu mi dici, ma questi 48 centimetri sono in più, sì, li puoi anche tagliare, perfettamente d'accordo, ma se vuoi fare una cosa matematicamente precisa, quei 48 centimetri ci vogliono. Positivo, positivo. E allora sottili, va Graziano e a Coscelli, ha piato tutte le misure, e ecco che si fa dello, si fa dello tipone l'antenna, ecco qui, allora, cosa, tutti i numeri, cosa, Graziano, tutto segnato a me. Che problemi ci sono? In ogni caso glielo posso anche ripetere quando un avversario a qualcuno, non è un problema, ma io non voglio fare lo saputello, perché magari c'è qualcuno ascolta e lui dice, sì, l'ingegnere elettronico è provvedente. No, è vero, sono cose che facevano parte del mio lavoro quando io facevo l'elettricista, facevo anche l'antennista, e queste cose le facevo perché era il mio lavoro, dunque non è che voglio fare il saputello o non ho nemmeno la presunzione del valore a 70 anni, a 71, anzi subito, figurati cosa voglio fare, ma avete considerato che siamo in tema di discussione, sempre a riguardo di antenne, eccetera. Ho voluto spiegare anche questo particolare, capito lui, tutto lì, niente di più. Positivo, positivo, facciamo girare davanti, grazie. No, io ripeto, io queste cose perché, non è perché le so io, perché le ho sentite dire sia da te, sia da quello, da Claudio, da qualche un altro, da qualche altro tecnico, sono cose che ho sentito dire, non è che so io personalmente, o che le ho lette anche a dire la verità, però la maggior parte le ho sentite da gente, da altra gente. Facciamo, mandiamo avanti a Graziano, avanti Graziano. Ehi, io c'avevo un libro comprato apposta, c'erano baracchini, un bel baracchini, i prezzi e anche come costruire qualsiasi tipo d'antenna, e che non me lo ritrovo più, a peggio che se la rinappato. C'erano tutti i tipi di antenna che tu volevi costruire. improvvisa, anche le direttive, le norme, fatti anche di pura antenna, ma non me lo trovo più questo libro. Positivo, vediamo un po' se c'è ancora Pompurio, Pompucci sì. C'è qualche un altro che se lasciamo un po' di spazio libero che vuole entrare, c'è qualche un altro, avanti se c'è qualche un altro. Non c'è nessuno, riprendi ciò. Ok, comunque anche per semplificare ancora di più le cose, basta fare così, guarda, proprio, è questo è un sistema molto ma molto semplice. Deve fare solamente un calcolo a 45 centimetri per volta, praticamente fai la velocità della luce per la frequenza che ti serve, cioè per il canale 20, 27, 205, no? E ti dà una lunghezza d'onda di 11 metri e 27, praticamente la lunghezza d'onda del canale 20 è di 11 metri e 27 centimetri, va bene? Lo fai diviso per 0,66 e hai la velocità della trasmissione, quella del cavo sempre, no? Se poi usi un altro tipo di cavo, allora la velocità può essere anche 0,85, può essere anche diverso, e ti dà una lunghezza di cavo di 7 metri e 27 centimetri, 0,8, allora 7 metri e 27,8 fanno 7 metri e 28 centimetri, e tu vai avanti 45 centimetri, 45 centimetri, 45 centimetri, fino alla lunghezza che ti serve, e vedrai che ti dà sempre 25 metri, se te ne servono qua 25 metri e 48 centimetri, capito? Proprio per non andare lì a fare tanti conteggi, no? Una volta che hai la lunghezza del cavo, cioè facendo lunghezza d'onda per 0,66, fai 7 metri e 27 di cavo, più 45 è il totale, più 45 ancora, più 45, più 45, fino ad arrivare alla lunghezza che ti serve, capito lui? E così ottieni la misura perfetta, senza sbagliare, non c'è errore di nessuna sorta, capito lui? Sì, no, quello lo sapevo perfettamente, Giulio, no? Quello già lo sapevo, no? Quello lo sapevo perfettamente, Giulio, no? Anche io quando faccio così, lo calcolo così, no? Quello lo sapevo già, no? Non c'era ombra di dubbio, dai. Lo sapevo già. Ma Pompurio, ci sei? Sono qua, ho finito di polo. Di polo, attaccalo, lei ha un bar, tanto presente, non mi sembra che sia la giornata giusta oggi. Che cosa facciamo questa corsa a palpetto? Marco è il logo Marco, va fino a quel punto. Ah, io prova che voglio vedere se fai come Pantuzzi. E fresco tu. Gigi, qui ci va di antenna come c'è Pantuzzi. Sì, vabbè, Pantuzzi lo fa perché è un comico e fa ridere. Tutti succederai. Anche io te lo stavo guardando sul tardi, no? Avevo sonno. Ho acceso la televisione lì dove eravamo in quella camera. E c'era lui, ho detto, ma non sapevo cosa guardare, adesso mi guardo un po' di Pantuzzi, vecchi film. Anche a me lo fa ridere se non altro. Chi su di l'antenna non l'avevo visto che lo principale l'ha mandato in alta l'antenna, a palantenna, pugna fulmine, l'ha fatto la radiografia. Quello è se fosse sinistramente a Pantuzzi. Tutte le cose, tutti gli aerei andando a piattere d'antenna in campeggio che pagliava Roma, e mi ricordi a titolo la mazzetta, una mazza, ma era tutto per far ridere, ma è proprio, non c'è quasi nessuno in frequenza, o sono qualche altro canale, io perché ho acceso qua, non lo so, ma di solito già seguono, ahia. Anda bene, Giulio, ero fuori, sono rientrato prima del pranzo, ero fuori, non ero qua. Ok, tutto bene allora, hai fatto un viaggetto o per lavoro? Sì, ho fatto un viaggetto, ma questo non era di lavoro, ma era di piacere, capito? Ok, meglio, no, io, diciamo, questa settimana non ho acceso per niente il baracchino, avevo da fare, poi le belle giornate che c'erano, me andavo in giro la sera, intanto aspettavo al baracchino che entrasse qualcuno, di solito non c'è mai nessuno, gli ho detto, ma che me lo fa fare lì a stare davanti al baracchino, sentendo tinta rosa, non me ne frega niente. La sera mi facevo una bella passeggiata, un bel giretto e erano belle giornate, dunque, poi c'è che feo, Pazienza, e ora si vuole fare. Oggi siamo costretti a rimanere a casa perché intanto è inutile uscire, deve andare con l'ombrello, ma che sape. Sì, no, cioè il pantalone perché dai, quei giorni scorsi avevo quelli jeans più grossi lavorando e mi stavo alzando già dal mezzalto. Oggi cioè il pantalone un po' più estivi, più leggeri, e ti dico che faccio freddo all'anche, c'ho freschetto alle gambe perché mi sono messo un po' anche le calze fine, e boh, mi sono messo un po' cosa, solo mi sono messo la felpa addosso, la felpa mi sono messo, anche le camicia senza mettere. Ti dico che ho quasi quasi freschetto alle gambe, capite, perché mi ho messo i pantaloni leggeri, perché sembrava che stava entrando tutto questo caldo e mi sono vestito un po' di leggero, e ti dico che ho i pantaloni un po' leggeri e sento freschetto alle gambe. Sì, oggi c'è freschetto, caspita, altro che, e tu pensa che noi ormai eravamo già più di una settimana che non stavamo più accendendo la stufa, qui a casa, andavamo, accendiamo, non ce n'è bisogno, non ce n'è freddo, e invece oggi ci vuole, altro che, oggi l'abbiamo messa poco a 2, senza esagerare con la temperatura della stufa, però ci è voluto un pochino, perché sennò si raffredda, anche perché domani e tutto il resto della settimana non è bello di sicuro, almeno sino a mercoledì il tempo è così, poi incomincerà magari giovedì e venerdì, forse diventa un pochino più bello, stando alle cose, al meteo che ho visto al computer poc'anzi, stavo guardando il meteo, e ho visto che la settimana, tutta la prossima settimana, non è delle migliori, insomma, ecco, siamo in chivi. Positivo, lo so. Ma sembrava che fosse arrivato l'estate tutta una volta, che venerdì c'era caldo, mi venerdì, giovedì, ma domenica, ieri stesso io sino alla ora delle 9, non qua però, non qui, sino alla ora delle 9 siamo usciti fuori e poi abbiamo messo un giubbino leggero, ma un giubbino leggero, era in camicia che con quella magliettina sotto, dopo la magliettina della salute, come te la chiamano, che a una certa età ce la mettiamo sotto, cosa di buono, se no ci vengono i dolori. E ti dico che si stava bene, poi me la metto per l'umidità, cosa così, se no non c'era freddo, sino ieri notte alle 9 non c'era, no, io non sentivo freddo, sono uscito fuori, quindi tranquillo, uscivo fuori e non c'era, non sentivo freddo, in camicia, mi. Invece oggi è voluto dentro casa, è più freddo dentro casa che fuori ieri sera, ieri notte, a modo di dire. Sì, è cominciato a ripescare già da ieri, perché ieri, io quando sono uscito ieri mi sono messo il giubbottino leggero, però ci voleva, perché già ero su una maglietta di sopra e basta, con la maglia anche leggera, e sotto non avevo niente, nemmeno la maglietta di sotto, niente, e invece ieri quando sono uscito c'era quel vento freddo, maledizione, allora mi sono dovuto mettere il giubbottino leggero, però ci voleva, perché sennò se può far male, non sa mai, devi dare influenza così, ma di non rendi conto. Va bene. Avanti poco, guardate come rendi. Un po' non riprende, grazie, avanti. Ehi, figurati che immagino questo, la cuffietta con lo bombone, le paraorecchie, tutta colorata, dritta, Giulio. Tu sempre le cose dritte, sì, ma è possibile. Lui sempre con le cose dritte. vabbè, il buon po' dai buco, la papparina dai buco, il buon po'. Attenzione, non sia il gudonito però mio, grazie. Oh lui, a te l'immagina Giulio, ci faccio fretta la recci, buco, faccio questa cuffietta, questa colorata, la cuffietta degli Ipsi. Io ho detto casa non me ne bombo di cuffietta, no. Eh, anche, sono abituato, è anche fuori, però a volte d'inverno, cioè dove è freddo, veramente vento freddo e coso, ghiacciato, che sono che mattina presto che vado a caricare lì ai piedi che andiamo sotto lo zero, allora me lo copro la testa e me la copro. Ma che quando va sotto lo zero, a voi ci andrò a passare un chissà carica, so cuvura, carichetto, mi piglia a capo, c'è un freddo, allora me lo tappo, se no, no è difficile che me lo copro la testa. Però quando viene inverno, quando si fa sotto, voi ce lo mandate, andiamo sotto lo zero meno, o un grado, due gradi, me lo so cuvura la picchia, così che so carichetto, cosa me lo tappo. Me lo copro, mi metto il cappuccio, qualche cosa di poco in capo, se no fare così, però lo freddo fa male, farà cervicale, fa male. Aspetta, ti volgo a lavorare in un cuccio, se no ti dà si vede, ti viene la cervicale, e adesso con qualche cosa io. E no, che il cappello che vuoi specialmente romanzano, chi so, a vedere pari, buu, tanto pari che non va freddo freddo. C'è travaglia il freddo, via, se non c'è un riparo. Giulio, lavorare di babbo, no? Di mio padre. Lui anche d'estate, quando si coricava la notte, va via, c'è invece di buon fuoco, si mette indietro, la cuffietta se la poneva in capo, non si tappava la lecce, però va via, la cuffietta di rana, puro di l'abitudine di che si coccava con la cuffietta in capo, si poneva a coccarsi, pure d'estate, in piena estate, in agosto, lui si poneva la cuffietta in capo quando si coccava, di rana, te ne immaginaci? Sì, voglia, c'è parecchio per gente che si muove quello di babbuccio, si muove, le gattette di lana, fatti apposta, la maglierista proprio, ma per i casi, ma vedete di inverno naturalmente, no? Sì, ma lo so, prima si usava molto, no, io il cappello non me ne metto nemmeno adesso, io nonostante che io ormai ho perso i capelli, ma per dire no, non me ne metto nemmeno in tutto l'inverno, perché sai cosa succede? Come è successo a mio fratello, anche lui calvo, ha incominciato col cappello, ha incominciato il cappellino, alla fine capita, si rubava poi il fiu e due già guarente cronica, perché si è preso la venite, c'è la cronica, basta un filettino di aria, ma basta appena il venticello, lui è subito con il naso tappato, perché ha la renite cronica, proprio a causa del cappello, perché se lo metteva e se lo toglieva, se lo metteva e se lo toglieva, andò via a casa, si rugavava e poi faceva macco, faceva una di quel cappello alla licenza, alla fine si è preso la renite cronica, e aveva sette la buccia, ma tutta la vita si è la buccia, capito? Grazie. Già lo so, ma se sei abituata anche la buona anima di mio padre ce l'aveva sempre la cuffietta. Infatti quando è morto mi scredda per questo burro che sta roba uni. Era abituato così, l'ha sempre avuto il cappello. Quando lavorava la Fiat aveva il cappello tipo di carabinieri con la benzina. Lo stemma Fiat, era abituato, e per dire babbo i capelli mi l'aveva giù. Sì, grazie, purtroppo è così, è una questione di abitudine, quando l'organismo si abitua in una certa maniera, poi a cambiare, insomma, può essere anche pericoloso, non so, si fa vedere pure la cervicale la giù buio, la cervicale la giù io, l'artrosi cervicale è normale del palisso, ma questo mi ha tanto, si va a incendiare. Però ho notato una cosa, se io rimango fermo, senza fare niente, è possibile che mi venga qualche dolore così intanto, no? Allora, ho passato durante la notte, e non male non ho niente, durante il mio passato. Se invece lavoro continuamente, allora difficilmente mi viene il dolore alla schiena, soprattutto alla schiena, perché ripeto, l'artrosi cervicale e lombare è la quarta, la quinta vertebra che si stanno avvicinando a toccarsi insieme, se che ti puoi immaginare, insomma è una questione di postura, no? E quando comincia a fa male l'osso, va di male e basta lì, ci sono dei giorni, sono tremendi, ci sono veramente dei giorni tremendi, però cosa ci vuoi fare? L'età c'è, io praticamente sono qui in fase di licenza, cosa vuoi che ti dica lui? Tiro avanti come finché si può. Positivo, positivo. Giulio, io anch'io mi cerco di riservarmi, perché me ne accorgo che a me mi piglia subito dolori e cose, se mi rimango scoperto, no. Infatti io, sino che non sento il caldo, la cosa non mi spoglio, non avevo la camicia e oggi sono rientrato in camicia con un giubbino leggero. Sono rientrato. Non è che stavo male, però sì, sto freddo qua cosa ho fatto qui. E subito mi ha giocato la camicia e mi ha giocato la felpa più grossa sotto addosso. E tomiglia, addosso e tomiglia. Perché se no rimango un freddo, mica domani un freddo, usini no. Che rimango caldo. Però ritornando a mio padre, adesso io non so che senso aveva, se lo metteva la notte quando si coricava. Se la tardina non la via, se la notte si coricava e si poneva cose in capo, pure di Dio, a cuccarsi. Io non sapevo che poi se lo mangiava, se lo cavava, se non bisogna essere un pugna vicino a un capitale, per la via sempre a puntata di mano, la notte per pugna vicino a un capitale su, io ero dentro, si muniva questa cosa in capo, questa capo cosa. Ma io di Venere, io l'ho conosciuto da quando ero piccolino, precisamente a canto del Sermuccio, vedo sempre questa cosa in capo si punia, sempre questo padronissimo, con questa non si punia questa cosa in capo. Sì, no, tante persone ci sono così, no, io addirittura durante la notte tocco le braccia fuori da sotto le coperte, mi immagino, dunque, non so, a un certo momento sento sempre caldo, nel senso che, vabbè, noi non è che mettiamo tante coperte d'inverno, anche perché non ce n'è bisogno qui a casa, la casa è calda durante la giornata, la notte magari spegniamo il riscaldamento, però bastano solamente due coperte per dire, e c'è abbastanza caldo dentro il letto, tant'è vero poi durante la notte ne cavo pure le braccia fuori, perché così mi dà fastidio, ecco, stare troppo coperto. Invece no, mia moglie è tutta grande, me da carrata, mi sta mettendo un capo, che da faremo di... c'è sempre freddo, guarda, vogliamo che ti dica lui. Purtroppo le persone siamo fatte così, chi ne ha troppo di caldo e chi ha troppo freddo. Vabbè, dai, avanti, grazie. Ah, ecco, in carrozzeria è un bambi, cassetti, luzza, pigiama, luzza, appoggiaccerò di giorno quando rimango in casa, però lo appoggia a piedi diritto, quindi con tutto, e cocco in mondante e in maglietta, e brutto. Io pigiama pantalone ai corsi, pure in ferro, pigiama pantalone ai corsi, però, e magari... con la magliettina a buona per le mani, che non è un problema, però io così anche con pigiama completo un tutto un altro mi date fastidio, la verità, ripeto, ma la buona c'è troppo caldo, tutto il momento qualche volta forse così me lo pongo e per i primi 10 minuti o 4 ore anche stato anche di roletto, che da voi non ne bisogna, che roletti non per sempre a una temperatura abbastanza buona, ripeto, ma che rimane un riscaldamento attesso tutta la terapia, allora l'aria no, è pure un roletto, non è che sia così freddo, ma poi dite no, hai voce tutto l'anno per freddo, con la bocca mi pongo io pure un pigiama con un pantalone lungo e una giubbina, e a voi però la poi di seccare il letto me ne lo cavo, e magari mi pongo un pigiama a pantalone gocci compreso, è una magliettina pure a maniche gocci, non è un problema, e ho troppo caldo durante la notte, non mi piace, come altre mattine non riesco a dormire, tutto anch'io compreso, grazie, avanti lui. Positivo, no, è così. Però io invece adesso la giacca no, non me la sto mettendo del anno, in questo periodo no, a chi non vede cose. Però quando è pieno inverno che fa coso mi pongo il pantalone e il pigiama, mi ripongo. I cassetti no, che sono uno trommo. I cassetti no, a chi si fa cose ripiri non trommo, non so come paga motivo. Non riesce a dormire, mi dà fastidio, faccio provato anche voce che la prendo, è meglio tutti i cavalli, meno, è più forte di meno, no, ma cosa? Però bisogna che la persona che non lo faccio mai, bisogna che la persona ponermi dei pantaloni, ma non tanto grossi, Giulio, non tanto, al limite c'è una coperta in meno, però è sto meglio, però invece di essere una coperta in più, una coperta in meno, invece di essere sì, là, voglio dire cotone, cosa sono, però non grossi, leggeri mi rimetto, Giulio, in inverno, capito? Adesso questi giorni certe cose non le stavo più mettendo, capito? Però metto più leggeri, non molto grossi, pantaloni più, la giacca no, chi sono fatto in maglietta ma neanche corsi. Ok, no, invece la venga le gambe mi dà fastidio, io a dormire col pantalone lungo del pigiama non ci riesco, mi dà molto ma molto fastidio, anche perché alle volte mi metto un po' rannicchiato, mi bicio tutto quanto, vabbè, quando magari mi risendo tutto lungo può anche andare, ma se incomincio poi a piegare le gambe, dai, un'altra volta, allora mi dà fastidio le gambe del pantalone, allora anziché che usare quello o quel pantalone lunghi, il pigiama lungo, uso il pigiama con pantaloni corti, capito? E allora è diverso il discorso, allora sto bene, anche perché il pigiama è largo, poi i pantaloni corti, perché a me mi hanno fastidio tutte le cose che mi stringono, capito? Non lo so, anche l'inverno, tante volte lavorando, io sono usato con le maniche di un maglione, nonostante che sia con un maglione pesante, però le maniche del maglione sempre sollevate, aspetta, almeno tutto l'avambraccio è sempre libero, difficilmente rimane coperto. Boh, sono fatto così, non lo so. Boh. Va bene, ognuno di noi ha i suoi problemi, i suoi difetti e i suoi pregi. Bene, grazie. Sono molto più calde di quelle normali, delle lenzuola normali, di tela normale, certo, questo è vero, però ripeto, sangue caliente, what is it, lo spagnolo, grazie, e così siamo noi disagi. Vabbè, dai, non ha detto nessuno stasera lui, tutti canti a Zonzo se ne sono andati. Positivo, è già atteso e io mi pare che già atteso per la Graziano Bruscendi e niente, anzi no, sono entrato anche prima, sono entrato prima dopo pranzo e c'era Gianni Dupiorru e poi è sparito, anzi io sono sceso giù un attimino e stavo guardando cosa al computer e niente, poi sono risalito a casa, sono risalito su, acceso e c'è la grazia, però non ho sentito altro nessuno, dico la verità, stamattina non c'ero, sono arrivato quasi all'ora di pranzo, sono rientrato e non c'ero stamattina qua. Ho capito, no, io già ero a casa stamattina, oggi non sono uscito per niente, no, io stavo guardando la partita poco fa, Napoli Cagliari, porca miseria, poi all'ultimo secondo ha perso il Cagliari, stavo pareggiando 2-2, boh, non è possibile, alle volte quando si c'è la sfortuna, proprio all'ultimo secondo, agli ultimi secondi, mi pare che voglia guidare gli 11 a prendere la partita, una cosa del genere, ma non è possibile, che vabbè che poi è stato anche viziato da qualche fallo, perché è successo un casino, comunque il fatto sta che il Cagliari ha perso 3-2, pazienza, per la fortuna del Napoli, ma comunque il Napoli è molto indietro, dunque non ce ne frega niente, noi juventini, Elio il Gaboziata, noi juventini, noi, dunque Poluego juventino, siamo alla grande, adesso stavolta vediamo un po' cosa facciamo col Milan, anche se perdono se la facciamo più nuda, però non è escluso che possa anche vincere, e perché no? Del resto la Juve è sempre la Juve, il Milan è sempre il Milan, chiaramente, però bisogna vedere che come si mette la partita. Saremo a vedere stavolta, se stavolta ci guardiamo anche quella. Avanti, oh, grazie. Mi guardo quando ci sono i mondiali, allora sì che me ne guardo, se no non è che mi attira molto. E vabbè, ognuno di noi ha le sue passioni per lo sport, eccetera, no? Ma salute, c'è anche il motociclismo, vediamo un po' che cosa succede. Salute, c'è un problema, che vera, la Matilda è più per il motociclismo, sempre la mattina sicura, ma comunque staremo a vedere. Ci vuole poco, con telecomando, un giro a Italia 1, a Italia 1, sì, è un giro al Premium per vedere la Juve, e cosa volete fare? D'altronde, andiamo avanti così e teniamo a campare. Avanti lui! Positivo, dai, positivo. Io ne approfitto un attimino, Giulio, che vado a bermi. Non mi crederai, se non ci crederai mi sta prendendo il freddo ai piedi, ho le calze e quelle fine stife, eh? Tu lo sai che ando mi pongo le calzette più grosse torre invernali e mi bevo un bicchiere d'acqua, datemi 5 minuti di riposo, riprendo subito, mi metto le calze grosse, mi prendo un freddo ai piedi, ho le scarpe leggere, guarda, mi sono messo le scarpe leggere con le calze, basta che usavi la calza, e faccio, mi sta prendendo il freddo ai piedi. Vado adesso e mi metto le calze e mi cambio le scarpe, pure metto le scarpe più pesanti. Datemi 5 minuti di bevo anche un bicchiere d'acqua. Riprendi, grazie, datemi 5 minuti di tempo, di piano. Eia, vai, vai, ehi, ma qua io gli ammaggio questo, torna un pigiama per fatto, la belpa e i cassetti grossi, un avreggio. Yeah, it is. dico, attaccati allo scorrevole, dove c'è la uva e a cavalla per scorrere, capi? E così non mi ne rattrenni, ma io ne ha già tirati. Tu hai avuto due pubblica, hai preso le belle giornate, allora non hai tolte, anche perché se no, essendo così, un autolesivo non le puoi nemmeno aprire per prendere un po' l'aria. E lo so, ripeto, le finestre scorrevoli, salari bulumenti, colpa della comunità che non prendono lo spazio, però a parte lo faccio guidare sempre un'altra carrada, come te minimo, quando è adoiante o la faccio guidare sempre la rada. E dunque già lì è un handicap. Però poi il discorso spifferi non c'è niente da fare. Li puoi limitare, ma niente di più, perché passa sempre lo spiffero. Purtroppo non si grazia, fatti di legno, non si vede da più, e ti rifai la randa normale e poni le cose. Poi una cosa condensa te ne crea all'interno della veranda, perché l'alluminio crea un po' di condensa pure, così tutto. Siamo meglio, grazie. c'ho la ringhiera e sotto c'ho quei pannelli sempre in alluminio, la pizza, dove c'è la ringhiera. Era solo quel muro che c'è dall'altra parte. E se no, sai, beh, il problema è che c'è l'inferno che fa il medico adesso, col caldo di dentro, il fumo, e il freddo di fuori, pari una piscina. Così purtroppo io sì, il solaio non te lo fa meno perché hai le due ventole su nel basista, quello sì, allora passa aria e si asciuga, se no anche il solaio ti sarebbe diventato nero, anzi la prima cosa che era diventata niente è proprio l'angolo di un solaio, era diventato niente ma prima di tutto, lo so, ma è come vetri, hai vetri normali, hai, non hai retrocamera o grazia. Ci sono i disegni disegnati, però sono opachi, appunto, non sono trasparenti. No, metro camera è. E da quanto giorno, da dove? Da Guinness, da dentro le buste, metro camera. Mi sa che sarà un centimetro spessa la guida che c'è in alluminio all'interno dei vetri, un centimetro mi sembra. Già sopra ci puzzino di poco peso, ma che io un adatto li rivolgo, ma finimi un anno, adesso quest'anno mi tocca. Bisogna abbigliare la berra del vapore, in due bastoni, a chiara sera lo bravo, si cade il pigiato, spezzate un bel, e nell'elenco no, a che pannelli che ci sono sotto, per fingere la ringhiera. Ho capito, sì, perché la vetrata ce l'hai all'interno della ringhiera, giustamente, sì, ho capito. Lo so, la tua camera è pesante, sì, è un mezzo usurato, già che si può le vetri normali, anche se sono vetri doppi, no, così chiamati, muti così, sì, così mi dimmi, ti intendo, è ancora peggio, essendo vetrocamera già un po' sono riparati dalla condensa, guai se fosse stato direttamente vetro a contatto, e allora, oia, tanto me l'ha voluto, la baracqua me l'ha voluto, durante questa veranda. Grazie, lo vedo adesso stesso. Scusa un attimo, hai scollato il telefono. Fai. E beh, lui c'è da 7 morti di rai. Giulio! Sì, dimmi, grazie. No, mia cognata era, che mi ha chiamato a dirmi che domani la rete dice che lo beva. E in zona, ma pure i punti? Penso di sì, dice che beva in un giornale. Oh, non lo sapevo, allora, hai fatto grazie, dimmi, da poi controllo al computer, lei giocava a Sardegna, al computer, e vediamo un poco se è successo. Anche io che balisce a Bataposa, di solito lo massimo che manca lei, mamma mia. È già un paio di piedi, di matti, ma manca sempre lei, manca. Infatti, noi l'una notte si fermo la scorta, allora manco lei va paro bagno. Pianemo la vasca da bagno, pianemo, ma che non si sa mai, desidera il bagno e non va a Eva. E invece, ma che per altre cose non li trattiamo Eva, ma come così là, compagno voleva venerare, a domani l'ha già comparata a Cittamercato, l'ha già comparata a Buttiglione da 5 litri, 80 centesimi, l'ha già comparato Issa, la trattiamo un po' così là, no, per la pasta asciutta, insomma, per la barita, un po' che barale, un rifolo, un bambino, trattiamo l'Eva minerale, normale, acqua panna e acqua naturale, cioè acqua panna naturale, perché sia naturale, e l'acqua gasata, leggermente gasata, anzi, la cosa, ora la mattina o la Santa Lucia, qui sarà l'abico un po' guevo e un po' come figura, mentre invece l'acqua panna, l'abico guevo, ma te se è memoria, dipende dalle momenti, però sinceramente a me mi piace di più l'acqua gasata, mi piace di più. L'acqua panna acqua un po' piccinetti mi pare. No, l'acqua gasata a base male, no, io non mi vinco l'acqua gasata, babbo la beveva, io no, sempre acqua minerale, babbo, io no, naturale, però non c'è proprio. tutti, poi io le cambio spesso, anche a bicicletta, così l'umate si diffonde e le va quasi male. Allora le cambio diverse, mi sembra che c'è anche il cielo delle visore, a pura, chi dà la... adesso non ricordo il nome. Le compro mischiate, non le bevo sempre la stessa acqua. E quando viaggiavo me la ricavo a tempio. Lo so, pure sta a tempio. Mi sa che credi che sia andato buono, ho fatto più, so fu calcare, va, è buona, tieni acqua potabilissima, adesso sì, però alla lunga va troppo calcare, non ti credi che andrà sereno, non ti credi, parla a lui disruttori, a voi, da tempio, a me me la voglia regà mi figliura, beh, ma travagliato ma 4 anni mi figliura, a tempio, sicché me la voglia regà pure giornalmente, volendo, no, e non la mai ci hanno comparato, tanto più che mi travagliava due finchili a Renaggio, e tutta la forestale, sicché a 50 metri era una sorgente, da Niraeta, la vera cosa della forestale, sicché voglia regà mi raedo, ma no, non ti credi che sia l'acqua un po' di tempo l'avevo vita, sì, ma così soltanto, però perché devo dire, io la ciappo pesante, la verità, io la ciappo troppo pesante di avere Renaccio, la ciappo, e tanto, ma io sono più di 30 anni, 35 anni, buoni, so, così ti prendi l'erba minerale, casata, sono aggiunta l'otto l'anno passato, aggiunta l'otto, ma 7-8 mesi, e la buoni, sì, ma dimmi che la so come scendi, un poco naturale, un poco casata, mi scende nel senso che una data di amore in questo momento magari naturale, la buoni magari mi attacco casata e così via, no, devo dire a bocca mi piace di più la casata, non vengo a fare, mi fate decidere di meglio, mi fate decidere, e cosa vuoi dire, grazie, ormai sono abituato da 35 anni sempre a prendere la minerale. No, prima, anzi, mi ripiglio aranciate, Coca-Cola, limonata, rinuncio, la verità, ma giù, ha giudizio, ha già messo il prezzo, ma avevo messo un poco di limonata, e mi l'ha giudizio mezza data, però è raro che prima ne già la bevevo spesso, se no mi compravo il ghetto lì, a caccetti, e lemon, ghetto di lemon, di limone, però poi ma tuo padre non ha giudizio più, se io lo dovrei bere quello, però mi ha stufato. Lo so, grazie. Ma così, purtroppo, così. Una volta bevia mi dava il rubinetto quando era le piscine, ma poi sicuramente era lo stesso, che andava la mia figliola, che va via 5 anni, mi pareva via, una cosa così, e si era malata, si è avvegliato un diffo, si è avvegliato, una cosa, era mandata a mare, era mandata, era piscina, sai, la minoretta, aveva 5 anni, abbiamo mangiato qualche cosa da mare, no? Qualche roba di arsene, eccetera, e abbiamo sabbiato un difo. Dalla volta allora, ma per causioni, ha sbagliato sempre l'erba minerale, ma sono come vedendo di 36 anni fa, non sono come vedendo di oggi, se che si può immaginare. E da allora sempre l'erba minerale. Ripeto, si è mogliata anni, bomba così, l'erba minerale non va a testi, dice che costa poco, alle volte costa 17 centesimi a impulla, lì sta 2 litri, figlio chissà, oppure a domani ci ho comprato 5 litri e 80 centesimi a città mercato, vista la svegliata. Sono di solito il compareggio alla gona del compareggio e costa 17 centesimi a impulla da 2 litri, chissà va a cucinare. Anche mia moglie la valeta la fase pure con chi se va la fase, ho preso. Se devo dire addirittura quando la frutta la avremo sotto la rubinetta e da poi la pesceremo pure con l'erba minerale, sempre di chi se va, proprio per il paese, anche chi se va io che sempre con lo cioccolato o grazia, è una bucania, repita, e la bolletta è sempre più cara. Io lo stesso la uso anche per cucinare, no, non le uso, non le dita. E marro, se ti tieni la data, vai avanti. Dopo righi del marro. E se non è marro è giallina, si la dà chi basato, ma la mandano sotto per un dito di e che cosa così? No, a cucinare metto l'acqua delle bottiglie. Non saranno, uno gira a volte, io ho provato, ho messo la pentola, stava bollendo, ho messo la pasta, cazzo di questi tutti i cacci, ma cazzo è il sapone tra il terzo. Invece dall'acqua, assaggio la pasta, mi è piaciuto, ho preso la pentola, l'ho lavata quella, ci ho messo le bottiglie dell'acqua, ho bollito, ho messo la minestra e il ciuma non l'ha fatto. Sì, parlo di così, tu lo vedi, è una bucania, raramente aveva no che frida, boh, non riesci a comprendere per un motivo. Vedeva se la rete ire, che ha tutta tanta brate che aveva sese, che andare via a casa con questi dubbi che sono sotto terra, sono tutti ruginosi, è una bucaria veramente, vaita, non è possibile, capito, in una città come te sta sei nella leva così brutta, magari a parola la manda buona leva, la manda pulita, però è la rete idrica che viene di tutta tanta pratica, l'ho preso, tu pensa che alle volte l'ho rubato, a me mi dà la sensazione che sia il bestia di ruggine, che ne fa la leva, un fare a leva. Che faccio tu la buona dentro una impura, dentro una tazza, una cosa, e vedi che tu, che sempre che questa cosa dormi, la bocca di dai, quando è pulita è sempre brutta, ma lo carattere di me, oh grazia. E allora niente da fa, da allora sempre va a minerare, pure va a cucinare, non solamente va a bere, ma va a cucinare pure, cosa, se no è una bucaria veramente, amarita. È una bucaria, vabbè, comunque. Però la moneta che avevi bloccata, l'ultima moneta che mi ha debito era 35 euro e tu pensi che noi siamo appena entrati in casa o grazia. La moneta che aveva 35 euro mi è uscita, l'ultima moneta. A me l'ultima che mi è arrivata 186 euro in due bollettini la divisa, che l'ultimo l'hanno pagato un mese passato. Io mi ho messo un salvato e gli ho dato 500 litri con un motorino piccolino di autoclave, c'ero distante 2 metri, ho fatto la traccia nel terrazzo perché il motore c'ho dentro, il vasco me l'ho messo sopra il tetto che è un terrazzo, capito? Mi ho messo una finestra lì che si può sbrincare a pulirlo, che mi pulire va a pure piante, ivi. E quando manca l'acqua io adopero il vasone per due giorni già mi basta, tanto lo uso per il bagno, per lavare in terra, per fare i piatti, gufri, che in genere uso i piatti in plastica, lava giù i pareti e le posate, capito? E se no in genere uso io i piatti usa e getta e si plastica, li compro lì a Perdanetta. Che costerebbe poco, ma ho già le rotine, c'è un negozio di detersivi carabini, il compare di chili costerebbe poco, e così risparmiate su detersivi. E se è vero, usando le piatte in plastica si risparmia un detersivo, e si risparmia un poco di fatica, la parte della femmina che lava, eccetera, e non so come sia, ma purtroppo è così, cosa lo diceva. Siamo molti mari, in tutti i sensi. Vabbè, bene stare di male di noi. La futtimo zinni, ce l'abbiamo accampato. E ci avete i due incisi appoggi che ti cassetti. Luigi! E ha chiuso, vero, anche al telefono che mi ha squillato, ed ero al telefono, poi mi sono ritrovato a parlare e mi stavo lasciando continuare il discorso, dai. Ok, vabbè, sono le 6:25 circa, le 6:24 per esattezza, stavo dicendo, ma grazie a me, mi ha mangiato un tartarino alla sola, mi ha mangiato un piatto di pasta asciutta e tira campà, un pettarello di frittata di coso, con, come si chiama, asparagi fatto con una frittata, un lume, non sai, con delle base. E chi la campà? Ah, saluti, vediamo un po' cosa mi prepara mia moglie, non lo so, come? Ciao, si chiamano, non ravioli, tipo tortellini, insomma, freschi. E poi pollo a pezzi arrosto nella graviglia con le melanzane arrosto, aglio e prezzemolo e uso. E lì da bagnotta rotonda giacca, a pezzi, era buonissima. Sì, indubbiamente. Ci compri i ravioli, magari, noi tortellini dei ravioli tu vuoi lì. Vuoi dire chi si vuoi lì? No, sono tipo tortellini, però rimangono più grandetti. Ah, boh, non so come te li chiamano, boh. Va boh, dai. Avanti, lui. Positivo, positivo. Solo che lo gioco con tutto, con la carota non mi piace. Se li pone un ragazzo di pezzi di carota, sì, ma se li pone troppa carota non mi piace lo sugo, e graziaccio. Mi piace di peccare in mezzo. No, non ha di questo, ma di là da chi l'ha congelato. Ha detto, farà congelare posso in te. Ma invece è buono, non sai che le carote fanno bene alla vista. No, le carote si buone per cavare l'acido dalla magna, la buone di solito. La carota si assorbe l'acido, guardami, Giulio queste cose le sa e te le può confermare lui. La carota si mette per togliere l'acido dal sugo, se no le pone un cucciarino di zucchero. Però la carota di solito dicono mettila e poi la butti dal sugo, non va mangiata. Perché? Perché si assorbe tutto l'acido, giusto o sbaglio Giulio? Sì, è giusto, perché addolcisce, no? La carota addolcisce, è vero, quello sì, è vero. Ma sai come mi piace a me, ad esempio la spaghettata, anche che essere spaghetti, se sono bavette, bavette di quelle leggermente più larghe, non bavettine, bavette. Ma sai come mi piace a me la pasta asciutta? Ad esempio, prima condite col formaggio, naturalmente, però poi una spruzzata di ricotta muschia, di quella dura, con una tarta al sopra, è veramente buona. Io a poco mi posso quando mi vado così, devo dire, ha un sapore, io trovo un sapore buonissimo, la pasta asciutta fatta in quel modo, lui. Sì, Giulio, lo faccio pure io, me la gratto, ma caccio non li pongo, poco solo un poco di ricotta che dà dei gusti, dà dei sapori, non bene. No, ora me la faccio seccare, me la porta mio figlio da usilo. Un amico, quanto le fa? Formette, ma sai quanto le fa? 5 euro mi ha una formetta di ricotta muglia, non ci assai. E a volte però mangio anche fresca a me, Giulio, mi piace fresca e quando a magnalla, ma che quando dura mai buttare la ragazzina, però grattugiata e messa come si chiama, nella pasta asciutta piace un bel pure a me. A me mi piace pure la magnalla quando è fatta, affumicata, fresca, che non ancora non è stagionata, a me grubare. E mi piace, no? Tutto, faccio le prendo tante forme, me la taglio tutta a spicchi e Giulio me la metto sotto vuoto, me la metto in frigo. Ogni tanto legavo uno spicchio, come vuoi dire te la maniera, perché mi faccio, per esempio, esce 5 euro, mi di solito esce una forma, non supera i 5 euro. Me la faccio in quattro cosi, e quando la tolgo dal frigo, dal sottovuoto, la mettiamo in tavola, ce la mangiamo con mia moglie, proprio se l'abbiamo pure, beh, lo spicchio, non è che sia molto. Ok, sì, è buona, certo che è buona, anche a me piacciono queste cose qua, questi sapori così, cioè a me piace mangiare dei sapori, dai sapori volevo dire, come per dire, ad esempio anche un panino per dire, no, a me mi piace, come affettato, ad esempio mi piace più il pane con la mortadella che il pane col prosciutto, ma non che non sia prosciutto crudo, allora è diverso un discorso, ma se è prosciutto cotto mi piace di più la mozzarella, oppure mi piace il pane con la gorgonzola, quella piccante, a me mi piacciono questi sapori così, io sono di questi gusti, lui, se mi vado a mangiare pane con la gorgonzola, me ne mangio mezzo chilo di gorgonzola alla sura, e mi mangio magari 4-5 panini, di sicuro, guarda, se dovessi mangiare solo quello, me ne mangio, guarda, ti posso garantire che me ne mangerei 4-5 panini con mezzo chilo di gorgonzola. Sono così, mi piace troppo il sapore, capito? Mentre invece mia moglie non lo può bere, la gorgonzola, no, dice, la gorgonzola non la buio, mascarpone sì, mascarpone con la gorgonzola, con la noce, quello già lo mangia, perché dice quando fa le verde non venga non le piace, dice ma fa schifo quando fa le verde, che schifo, io la faccio più buona, dice lui. Adesso ti dico una cosa Giulio, io non spesso, però una volta, almeno una volta al mese ci facciamo una pizza. Ce la facciamo, ma non fate a casa, ma c'è una pizzeria, già l'hai vista salendo vicino, e fa quelle pizze famiglia, e mi mani Giulio, mi sono mani per buon magnata, mi dice gigante. Beh, sai come la faccio fare io? Me la ordina mio figlio, dico mio figlio stesso. La pago 11 euro mi pare, che costa, 11 euro, quella grossa, così, e me la faccio fare con la gorgonzola. Tutta a me, a mia moglie ci piace da morire. E se non la posso pure la gorgonzola si scioglie come la mozzarella, non so cosa deve pure mozzarella in me. Guarda, noi ce ne mangiamo, io e mia moglie la facciamo, ma non spesso, una volta può capitare, una volta al mese, però te la fermo. Una notte te la mangiamo. Ce la mangiamo tutta, giuro, perché è grande lì. Sai, cosa per la casa della figlia del posto, questa scioglie tutta la gorgonzola sopra. Io ci vado matto, anche a mia moglie, piace da morire. Ce ne mangiamo una enorme, una gigante, io e mia moglie, due. Sì, lui. No, io vado alla pizza, la mangio tutte le settimane. Ed esattamente tutti i giovedì sera, immancabilmente, noi siamo molto metodici qua. Allora, e succede così. La sera, quando viene il fidanzato di mia figlia qua, Eugenio, già c'è stata fatta l'ordinazione nella pizzeria che ci abbiamo qua vicino, no? Abbiamo. Quando è di passaggio che sta venendo qua a casa, e questo succede tutti i giovedì alle 8, esattamente 8, 8 meno 5, massimo 8 e 5, tutti i giovedì la pizza, noi 4 pizze, per me, per mia moglie, mia figlia e per mio genero, tutti i giovedì immancabilmente, e molto spesso anch'io me la sono fatta portare con la gorgonzola, ma è buonissima veramente, ma ti dirò di più. A me mia moglie intanto mi fa anche la pasta asciutta con la gorgonzola. Siccome quando la pasta è calda si scioglie tutta quanta, diventa quasi a brodo la gorgonzola, anzi quasi, non ce la raffreddai appena o lui, e poi mangiati quella pasta asciutta, è poco buona, io me ne dico pesante di dici. Sì, no, mi piace. Dico una cosa, io frate mortadella, non pure a mia moglie piace così. E io la moglie, se me la piglio sempre, passo a prendere l'acqua, una cosa, e me faccio tagliare sempre una fetta di gorgonzola, sempre. E a volte c'è quel pane che fanno in casa, quelle spianate, non spianate, quattro, come si chiamano, sono morbide e morbide, le fanno per il bordo, per le facciano. E sono... ho detto che sono morbide, fatte al forno a legna sono, e qua lo portano in questo supermercato, così qua le portano. E io da volte mi piglio una di chissi, Giulio, me ne compro una, che fa un po' più di due panini. E la divido in due, quando vado qua a casa, la divido in due e piglio un etto, un altro mezzo di mortadella e lo d'avvozzo. E butto dentro un paese che è buona, mi frate proprio vabbè. Poi di fette di mortadella, poi merendane. E non avete abbassato le gorgonzole, e ci sta bene, anche mia moglie, e ce la mangiamo. A fare meretta a volte quando passo rientrando al lavoro. Allora io ci vado matto proprio per la gorgonzola. E mi piace anche con la mortadella, messo così spalmata in mezzo, mi capito? Sì, specialmente se la mortadella è appena tagliata, quel profumo bello, è saporitissima, anch'io quando mi imbottisco il panino lo voglio bello pieno, non lo voglio, devo sentire il sapore di quello che del companatico, lo devo sentire, non guardo un avete in più, un avete in meno, no, di voglio è buono, me ne butto nulla, lo voglio pieno il panino. Grazie, adesso ti facciamo venire anche l'appetito, ti facciamo venire. Altra rutella ancora, bella da vedere. No, ma anche io, ce l'ho anche io, anche adesso ce l'ho il frigorifero, la gorgonzola, no, ieri l'ho mangiata. È buonissima, e specialmente chi dà vici dentro un meme, a me mi piace un bel chito, tu ci vuoi di porce, no? Invece chi sa che picchi i denti, è un bel saporito, è buona, con la mortadella. Marino, ho fatto un po' di Zea Selvatica in campagna, avanti. E lei è già stata a casa, pure un rubino cinto mi ha già fatto, quello selvatico. Me l'ho pulito tutto, la zona, ho pure un buddita, chissà, e l'ho fatta insalata. Beh, e io mi ho mangiato una schianata di quelle rotonde, non vittima animale, a media, là. Gli ho messo una gorgonzola, la mortadella e la zia, l'ho pigiata in due e me l'ha bagnata, buonissima. Ma che? Non per niente. Di solito il sardo le piacciono, i sapori le piace al sardo, non la va, lo sappiamo. Se avessi due anni contenti, se ti rubi la libra a Parma, la vuoi a Parma, ti avremmo anche scrivato, ma ascolti, mi dico una cosa, non so comprare il pane, è mai da doloroso, a quest'ora il pane è qui, no, il pane è qui a quest'ora, era di Londra, di Manzano. E sentendo la mala io ho fatto, a chi? A Londra si dice, non sa c'è proprio pane, ma non è possibile. No, dice il pane noi lo facciamo presto, ma sono appena le 11. No, quest'ora non lo trovo più. Beh, lo sai, a Parma lo pare, o lui, non si riesce a trovare pane, dopo le 11 non si riesce a trovare pane. Non so, già sono stato a Parma e ti dico una cosa, a chi lo devi cercare apposta di quello, anche in Toscana, nella zona dell'est, perché appartiene alla Toscana, no Parma no, appartiene alla Toscana, Livorno appartiene alla Toscana, Livorno, perché non è molto salato il pane, lo devi richiedere quello salato, se no perché loro mettono i salumi molto piccanti, hai capito? Il pane lo trovi e a volte non salato, hai capito? Senza sale. Sì, no, ma in continente ci sono tutte altre abitudini, ci sono. Ad esempio a Brescia, tu vai a attaccare i batti, non le trovi pasta come quelle di qua, no? Sì, i dolci li trovi, ma sono di quei dolci normalissimi. Tu vai a cercare la pasta e non le trovi lui. Ma io non lo so, in continente per un motivo non si trovano certe cose, eppure dicono che è voluta la vita lì, mi pare che ci riprendendo per certe cose, almeno per mangiare, non ci. Le facciamo 10 a 0 le facciamo noi per mangiare a questa gente. Sono vedato il pasto in Brescia. Te ricordi che avevo quel coso, c'è un altro quel coso del vino lì a Verona. Rientrando siamo passati da Brescia. Dico un collega, siamo fermati vicino a di Brescia a fare colazione. Siamo fermati in un'area di servizio a fare colazione. E che pasti erano così lussicati, non erano così tanto cose. Io l'ho presa, ma era fatta di quelle freccotte, come si chiama, erano. E l'ho presa ed era una mermellata. Il mio collega invece era nel marinare la crema. Era la crema in mezzo. Da voi insipite un caffè di lagna che si abbassa questa crema pigliata in chipiti di Brescia. Temo un poco di canine e questa ciampa culo di faccia gli sta sulla. Ma detto, ma c'è un po' quella pasta che mi ha fatto male. Mentre ghiccio, tozionamento di pazza, di diarrea, Giulio. Siamo arrivati in tempo all'acqua dei servizi, siete entrati in presa in bagno per la signora Pulenti e gli dice, no, aspetti, no signora, non ce la faccio più, mi pare la centrale non ce la faccio più. Oh, ma da chi mi vengono a rubare sotto il ratone di pazza? Ogni novena di mese è il ratone di pazza, e della stessa parte, ma tu hai consumato un Brescia. E infatti le pazze erano pessime. Che te lo sto dicendo, io non lo so perché l'ho contattato, ma per carità, infatti gli ho anche detto, una volta dice, mi vado io su di barba, ma lei vuole cercare il pane a quest'ora qua, fatto, perché non, cos'è, cosa sto cercando, la luna, sto cercando il pane, non so, sì ma sono le 11, dice, fatto, a quest'ora non si mangia, a me mi sembra che siete voi che non sapete mangiare, ha detto, non è che non si mangia, siete voi che non sapete mangiare, altro che... E la gente di dipa, carità, Iulia. E così lo stesso discorso, a Brescia che lo vedono i luci fanno schifo veramente. Le pasta che abbiamo noi sono veramente buone, altro che se sono buone. Io le ho mangiate anche oggi. per quello, o la pasticceria qua davanti, banale, ti puoi immaginare una delle pasticcerie migliori che c'è a Sassari, perlomeno come qualità di pasta. Lo so, ma lì a Brescia, ma porca zia, ma lo so, a Brescia, in tanti altri posti, guarda, ci sono certe abitudini proprio schifose, ma a Milano e a Milano, questa gente, ragazzi, da pranzo, difficilmente ci fammi, si mangia un panino così volante, subito sono di nuovo all'attacco, e poi quando parli, io mi ricordo, alla fiera di Milano, c'erano questi operai lamentandosi, dice voi sì che in Sardegna state bene, mangiate bene, eccetera, eccetera, dice io ci sono stato in Sardegna, ho mangiato benissimo, ma voi sempre voi, noi sempre così, anche meglio, e gli ho fatto, no, dice qui noi lavoriamo continuamente, anche noi lavoriamo, però mangiamo anche, perché sennò un sacco vuoto in piedi non ci resta, se può tenere lì, ma voi perché che cosa fate? Alle volte noi facciamo il pranzo al sacco, un panino così, una birra e via subito al lavoro. Beh, un capo mi avete, gli ho fatto. Bisogna lavorare, sì, indubbiamente, ma bisogna anche mangiare, se no le cose non va bene. Sentire, non è possibile. Ma per dirti, no, eppure è a Milano mio, o lui. E ha registrato il break, no, io a Milano già, lo sai che ci vado spesso, facciamo quelle cene, quelle cose, non erano granché, infatti io di Milano mi sono sempre, di mangiare mi sono sempre lamentato, capito? Mi sono sempre lamentato di Milano. Ma avanti, facciamo entrare il break, avanti il break, quello buonasera. Buonasera, signore Lupi Lu. Mi stavo ascoltando i discorsi che state facendo, anche a me capita di mangiare il pane insipido, ma me l'ha raccontato la storia, dice che praticamente avevamo messo allora la tassa sul sale, e per protesta non ne hanno più usato, dice che quella lì la leggenda, lì a Terni. E poi ho mangiato la pizza che sembrava pane Carasau, in questo grandissimo capannone, un locale bellissimo, ma cavolo, la pizza non serviva, le cui antenne le impaccava tutta l'altra, secca era, tutto sembrava fina. Ma no, scusa Giugherbene, no Gianni, non è così, no. Io sono stato, c'avevo dei parenti a Grosseto, sono stato a Livorno, ci ho mangiato parecchio, e il pane era sempre senza sale, perché loro mettono le altre cose molto più piccanti, hai capito? Anche i salumi, queste cose sono più piccanti, capito? E cielo, perché l'altro giorno io sono stato a Grosseto, mi sono state vacate, c'avevo dei parenti di mia madre, cosa ci andavo, e l'ordinavo apposta il pane col sale, se no era tutto senza sale il pane, capito? Perché loro cucinano un po' piccante, allora il pane era senza sale, capito? Forse niente sale, capito? Però c'era che il forno lo faceva e lo richiedevi e te lo davano col sale, non è fatto di tazza di coso, capito? Comunque il posto più bello del pane è Corsica, Giulio, non so se ci sei mai stato tu in Corsica, lì è il posto migliore per il pane. Talmente non ti resti che te lo danno in mano. Sì, in Corsica il pane è buono, il pane è buono veramente, col pane particolare poi che fanno lui è buono, è anche saporito, molto, vabbè, ma sono altre, diciamo, un'altra cultura, praticamente è la cultura della Sardegna stesso, se vogliamo, non è che cambia molto, sì che è per quello che è buono il pane, ma il continente va veramente schifuglia, per carità, ma tanti altri piatti, non solamente il pane, ma tante altre cose. Ma la cosa più curiosa, a Parma ad esempio, vai a cercare il prosciutto cotto, quello di Parma proprio, ah lo sai che ho fatto fatica a trovarlo, non si riusciva a trovare il prosciutto, capito, ma sei proprio di Parma il prosciutto, dice, noi lo mandiamo fuori, dice, lo mandiamo, e a posto senti, lo prendete qua, non lo prendete qua, non lo mangiate, sì lo mangiamo, ma non è che lo mangiamo molto, a posto sembra di un fatto, che aspettina, ma adesso li metto lì, come si fa? Una produzione della stessa città e lì si trova in maniera molto molto scarsa, boh, non è possibile, comunque il Parma cotto mi su, vabbè gli ho fatto, e a posto senti, è ben andato avanti, grazie a chi l'interessa a fare dinari. salienti, Giulio, non mi la butti nuda, quella magna, magna di mara, bucaria. Però chi salienti è abituato a fare cose a patina. Ecco. E soprattutto mangiano poco per farsi le ferie, capito? Si fanno le ferie, pure. Telefonino. Addirittura. Sì, perché rifiutato. Lui dice che l'ha preso in mano quando si è alzato, che ha preso la borsa, e siccome non ho visto, uno di quei telefoni grandi, di quelli che chiudi e fai con le dita scostre, che si, diciamo, costosi, e sai, dice, come fingeva, le faceva, la tasca era un po' larga del giubbino, e sicuramente qualcuno dice, ma è entrato la mano in tasca e me l'ha presa, boh, dice, tanto come sfiglia, ma te ne accorgiti. E mi hanno visto che l'hanno tirato nella tasca e me l'hanno rubato, secondo lui, poi no, ha detto, secondo me tutto ti è caduto, non te ne sei neanche accorto. Quindi adesso ho perso il numero e tutti i numeri anche, il numero suo ha perso anche, lo zia. Beh, tutto c'è, il telefono, adesso chiamerà alla Vodafone a farlo, perché c'è un contratto, non so, così tanto, ha contratto e se no possono anche adoperare per bloccare quella scheda e se comprerà un altro telefono e cerca di avere nuovamente lo stesso numero. €480 l'ha pagato, l'ha preso da poco, se l'ha cambiato, €480 l'ha preso e l'ha preso. Penso non se lo trovava più, e scendiamo dalla... mettiamo in macchina, partiamo e il telefono non ce l'aveva più addosso, siamo fermati a cercare, poi un altro che era ancora lì è andato in aeroporto a chiedere, c'era questo amico poliziotto, e dice in aereo non veniva, non ha lasciato nulla e sparito il telefonino. Cosa è successo, non so, ma quello lì tramite la Vodafone, almeno il numero già lo recupera. Il telefono sicuramente no, però il numero lo recupera. Sì, quello che chiude, ti fai quel coperchio con la cosa in pelle, con la cosa che poi complica, hai capito? Quello lì che poi l'ha sbagliato anche come navigatore, lui lì faceva di tutto, internet, entrava, faceva tutto con questo telefonino, capito? Gli dava il punto dove doveva andare, quelli dove, ristoranti, quelle località, quello gli dava il fornitore più vicino, più coso per fare il rifornimento, ha preso lo telefono. Positivo. Va bene, dai, signori, io vi lascio, riprenderò poi se non arrivato. Buona serata a tutti. Ciao, Matti. Ciao, Matti Miglia, ci sentiamo le prossime, ciao. Ok, sono arrivato, ciao. Avanti, Graziano, una buonasera, che poco fa ti ho salutato, non ti avevo sentito. Cosa vuoi dire, Graziano? Ehi, anche mi sei arrivato. Così, avanti, che non ti avevo inteso. Ehi, lui sicuramente l'ha perso, Gattini Rubura è nata lei, ma quello l'ha perso dalla tasca, mi era stata accesa, non se ne è manca accorto. Quasi si consentito, €480. Che poi venendo siamo passati alla città mercato, dice la Voda, poi gli dico se mi bloccano lì. E lui dice se viene, se torna stasera, dice possiamo contattare, non so, e bloccare la scheda e fargli la scheda con lo stesso numero, a chi non l'ha firmato non so cosa. E voleva fare questo. E insomma va a comprare preciso il gemello stesso e ne costava €480. E che €480 l'aveva pagato ma stessi, questo dice il telefono. E l'ha perso, boh, dice che lui ce l'aveva, detto, secondo me è stato dimenticato nella macchina e c'aveva manolliccio nel furgone, secondo me. No, dice ce l'aveva in aereo, dice l'ho spento, quando ho preso la borsa ce l'avevo, dice me l'ho messo in tasca, e sicuramente dice, dai, ma te, è tutto stretto, uscire dentro l'aereo, e lei entra una attaccata all'acqua, infini, sicuramente mi sto mettendomelo in tasca, e me l'hanno visto che era un telefono costoso, una cosa del genere, in realtà, in mano, e... sicuramente secondo lui è stata una buccia che me ne ha piazzato una buccia che era grave, tutti un botto, è compreso. Sì, ma poi si può morire, può assicuro, ma secondo me l'ha preso. Dai che si pone ivi, quando si pare dalla era, ha fatto la mano in buccia e ha pigliato un telefono. Ma se lo porta a fuoco, si scappa un telefono. C'è brutta la niente. Secondo me l'ha perso, ne risarà parato sicuramente. O quando era seduto nell'aereo, oppure quando fui nella stazione lì. Sì, secondo me lui ha sbagliato, sempre pensando di metterselo in tasca, e se la fosse a parte in fuori, era di terra, doveva il rivestimento. messo in pelle quel telefono e in terra mi pare che i mucchetti l'aereo, se non è sbaglio, se l'ha parato sopra Osiride Mattesi, è imbagliato e sicuramente è rimasto. Però poi c'è tornato un altro amico nostro di Cagliari, abbiamo telefonato e è andato lui e si è fatto una cosa di quattro chilometri chissà da in aeroporto a domandare, vai un amico poliziotto che l'avevamo trovato lì a chiedere a quello, dice dall'aereo non hanno sceso niente, non hanno trovato nulla, non hanno portato niente, così smarriti, no, cazzo, ci fare cos'è, vedi, non hanno buttato niente. Se no, se era stato nell'aereo, l'importa non sia cose smarriti. L'ha fatto vedere da poco una lì, ha scritto la notizia, tutta la messa è dimenticata o abbandonata, sugli aerei, valigi, era fatto vedere poco, computer, nessuno è mai andato a ritirarsi da questa roba, dovevano fare un'asta. E cosa fai? Magari sei alla campati di un mondo, e torna a dare dove applicate un computer. Si ricompare già un'asta e basta. Beh, già lo credo, che sa che tu, che ce l'ha dimenticato, di un'era, e cosa ti torna? Che mi fa fare gli altri un computer, ora vai, sono calcoli persi, riprendi già. Che fai salata di vita? Io ho un amico a Roma che mi ha detto che si trova la roba, che se ne prendono un bene. Sono la trova, ho sentito, ce l'avevo. Anche quello avevano fatto vedere al televisore. Cantabriani pure i varichi che venivano in carigarrelli che li buttavano all'aereo a caricare o a caricare. Cazzo, si ricomputavano, si impiegavano le macchine fotografiche, cineprese e un mediata roba. Dice così, la roba che trova. Se la prendo, non sono tutti onesti, no? Lui è quello della sicurezza, per dire, ritirano la roba liquida, cioè questa roba che ti metti nella valigia, si può mettere, se la ritirano, o se la porti in macchina, se sei ancora in macchina all'aeroporto, e se la rimetti in macchina, bene, oppure la devi dare a loro, se la... Poi quando ritorni gliela puoi chiedere, però se gente che non ne richiede più, no? Bene. No, quello che volevo dire io, Giulio, anche a Gianni, è che se tu compri un deodorante in aeroporto dove sono quei negozi sopra, che l'ha preso questo amico mio, anche là dentro te fa passare. E da quindi a me mi sta lampando la idrodetrice, un fazzolino e un deodorante, e tu ti svolgi la concetta dell'uomo che emana di un profumo, e quello è anche tu ti ha lampato una concetta che tu sa minorita, ma te quanto è piccola quella del coso. È quanto una pianeta di bottura, ragazzi, tanti bottini. Se gliela buttata via, il coso di lenti a contatto, e gliela buttata via. Vedi, il profumo, queste cose qua, deodorante che lo compri in quel negozio lì dell'aeroporto, quello te lo fanno passare, lo metti dentro la busta loro, quella busta che ti è fatta. Ecco, quella sulla parte, ecco, sì, va bene. Invece se tu vai una saponetta, che è una saponetta basta, però se c'è tu un flacone di sapone per la parte, un segnale liquido, non ti passa, hai compreso, non ti passa, invece compri 5 e ti passa. Ma lo so, pure quando mi sono messo le bustine, è seduto a pranzo, io qua lo so perché ti sto dicendo, questa piccola della sicurezza, lavora per la sicurezza dell'aeroporto di Roma, e quindi tutte queste cose io mi sento con lui e cose, glielo chiedo, e mi dice che cosa devo fare, come devo fare, tutto quanto, perché se no una volta ci stavo fusando tutta la valigia, non è che ci hanno fatto perdere l'aereo, ci hanno fatto perdere l'aereo da Roma, ci hanno fatto perdere l'aereo e non ci hanno rimborsato nulla, ho dovuto pagare più di 600 euro. Non penso proprio, no. Non penso proprio, no. Io per me non mi interessava, se mi costava a spedirmelo e pagarmi un costo della spedizione, io dovevo fare un po' mandare lo dentifricio con lo spazio, invece se compravi quello piccolino corto che c'è in aeroporto, quello non ti dice niente. Chi dice si controlla la valigia come ci ha controllato, la valigia ce l'ha buttato via, dice questo no. Poi si è fatta la taniera, ci ha fatto un video coso, me lo rito, no, questo no, che era una fracconcina, guarda come deve venire le cose, dice ma è cosa per il a contatto che ti devo usare per gli occhi, non è appuntina tutta, via, tutta lo gestisco. Ma non è posso lasciare la roba che è superiore, allora lui per lenti a contatto va a prendere un contenitore massimo di 100 ml, metterlo lì dentro, un tanto di riserva, non si deve portare la boccia grande, perché se no la devo sequestrare per forza, massimo 100 ml deve essere il liquido, se no lo sequestra, tutti i liquidi, può essere profumo, può essere dolorante, può essere qualsiasi liquido, non te lo lasciano passare. Lo so, però io secondo me non dovrebbe passare neanche quello dall'aeroporto allora. E caso tu compri un deodorante, l'aeroporto lo può passare, dove sono dentro quella busta, una busta di plastica dei leggiani, cosa dentro, uno può pure avvenire la busta, no? E poi può andare frustrati in faccia a cosa, che discorso sono, io non ho capito questa cosa. Comunque, così non ti fanno passare, mi hai fatto cavare pure le volte a me, hai mai dovuto cavare pure le volte io e che danno, mi hai controllato dai capigli se metta sopra, mi tutta palpata, tocchetti, mi sotto, mi hai fatto stare male in alto, e qua tutto quanto è palpato toccandomi, fai di caso questo delinquente, e così fanno, le donne le preferiscono, le donne e i maschi anche, fanno così anche come l'hanno fatto, però le scarpe non me le ha fatte togliere. Mi ha solo perquisito così addosso e basta. Invece c'è gente che gli fanno tutti gli occhi di volte. È vero. Vabbè, loro devono prendersi sicuro lui. Con tutte le cose che succedono in aereo, non è buccia di gioco, devono essere molto timidi. È positivo, dai. Andrà bene, dai, riprende, grazie, se no parliamo di aereo, di cose, vabbè, che sempre per cambiare il discorso devono passare da elisporo, devono passare dall'aereo. Quando te ne scendi tu dall'aereo, se ti serve dentifricio come fai, se no lo pigli nell'aeroporto come faccio io. Però ho preso lo spazzolino, quello piccolino, usa e getta, e se c'è anche il dentifricio piccolino, tutto abbinato, e te lo lampi da pure. Luca, ma io vado alla zia pura e alla zia in albergo, dall'albergo da Romagna mi pigliavo la zaburetta, l'asciugavo, la carta igienica. Ah, così non si fa. niente, no, non è da me. Si pigliate le zappone, le cose, e portacenere, tutte che si pigliate, che si pigliate. Io no, non gli ho mai toccato niente. Se lo devo adoperare, lo adopero. Se non lo adopero, quello che si rimane lo saprete, non tocco mai nulla, su dentro in chivi. Io non gli ho mai toccato nulla, né asciugamane, no. Queste cose non le ho... Oh, non le ho mai fatte, non è da me, eppure molte lo fanno, pure ieri l'ho visto anche ieri stamattina, lì la spesa, qui c'è state le saponette che mi danno in più e coso, tutte le bustine, non so cosa, per shampoo, cosa, colore, si è portato via tutto. Una volta sono andato a matrimonio, a Giubicciariccio, lì c'è riposato eppure di trattare bucciata, di rubare parole, cazzo di vizio si ha fatto. Bicchiere, cose, già lo fanno, ma le ho visto tanti, il portacere che si fumava, quelle che il portacere, si pugnano di tappone di cose, di ristorante, si pugnano di la rossetta, ma più che l'opera per dire insieme si pugnano la rossetta. Ehi, il portacere è lo stesso, più di uno mi danno anche la nave pure, come? Tanto tempo fa. Sempre stato tutto, non ho mai toccato, non sta mai, non vedi niente, si può già asciugare, si può stare mai, non è da me, non è quello, non me ne posso nutrire, se me ne posso pigliare una saponetta, no, non faccio mai queste cose. Eppure c'è gente che lo fa, no, io l'ho fatto qualche volta in albergo, pigliavo, e dopo me ne insegnai, un camion, va. Mi si via, le cose che mi fermava la mamma le mani, la pigliavo e mi lavavo le mani. E già, però ne ho conosciuto gente che c'è, cioè, tutti i miei figliani si buscavano. Meglio lo so che succede così. A volte ti richiamano, no? Quelli delle, quando tempo a voi si capiteggia in nave pure, no? Se andate poi prima del barca, dice delle l'occupante della cabina numero coso che rimetta, non so, l'asciugamano al posto suo, sicuramente sbagliatamente se sta portando via l'asciugamano e anche non la ciappa elettrica, la sini o cosa, gli dura l'endalito. A me mi è successo la divina, Genova portò Torres. L'autista del mezzo targato, si presenta al posto di comando, e lì in un ristorante mangia di meridina del biglietto lui. E lui da qui andava a mangio, da qui a. Positivo. Beh ragazzi, io faccio un attimino di relax. Ci siete ancora, poi ci facciamo un'altra chiacchieratina, dai, io sto presentando stasera perché il negozio è chiuso, ma cosa, vendere già atteso appena appena di fare il venito graziale e cosa, e poi è ricaduto a cadere improvviso, anche se sono con 4 vatti in questo momento, essendo con 4 vatti, boh, entro nel trovo un negozio lo battessi, comunque se lo presentava. E allora l'altra venerdì stavo parlando, mi pare, con te, grazie, io ti dico che ho sospeso, perché mi hanno suonato, dice se potevo fare a meno di parlare quando chiudeva il negozio, che stavo disturbando troppo. E allora ho aiutato a casa all'improvviso, pure con 4 vatti, con Teso Cavani, entra nel trovo negozio. E non so cosa. E non so che dire, infatti la domenica ne approfitto perché il negozio è chiuso, la mattina è chiuso, ma la sera è chiusa, posso approfittare solamente la domenica pomeriggio. Boh, e poi la Fredini da voi stacca un negozio, a comodità del negozio, non è proprietario. Ma non sarà l'antenna o lui? Cosa vuoi che ti dica, ma se mette la più in su io da questa non ne accavo più, e se ne accavo di tutto e ne pongo una fa diversa. Prova a spostarla, magari da lo faccerai. Mi è messa bene, mi giuro, la vita l'ho ben messa. Più ben messa di così, non lo so. Non dipende dall'antenna tua, lui, non dipende dall'antenna tua. Il problema è del negozio, che ha le casse, cioè la media frequenza di quel coso che hanno lì, di quell'amplificatore, che si raccoglie tutto, si raccoglie. Capito? Il problema è quello. Non è che dipende da te, assolutamente. Ma ne manco un bassogno, figurati. Il problema è loro dovrebbero mettere qualche impedenza, dovrebbero mettere un filtro per poter evitare questo disturbo qua. Ma oltre che loro si rivolgono a te, perché io ve l'avrei caita corta, io ho il diritto di accendere quando credo, non posso essere legato ai vostri orari. Sì, vi posso anche volare un giorno, due giorni, ma questo è inattendo, sono anni. Dovete provvedere voi a sistemare il vostro amplificatore, non la mia antenna è messa anche guardate, non ha niente di difettoso, capito? Boh, vabbè, comunque, forse anche ci perdi a rimanere in pazzi, quello anche quello è vero, però tutto sommato la colpa non è la tua, nella maniera più assoluta. Adesso non so se è troppo forte, io questa qua, allora è con quattro fatti, così come adesso sono quattro fatti, l'ho passata io, che l'ho passata io questa cosa qua, l'ho fatta al minimo quattro fatti e al massimo sono 10 fatti, se non arrivi a 20 fatti, no, anzi l'ho passata proprio per non avere problemi. Adesso così con i fatti, tutti chiusi, sono quattro fatti giusti, l'ho messa io, l'ho guardata, l'ho attaccata con lo strumento, qualcosa l'ho messa a quattro fatti. Allora, ho anche messo il microfono, diciamo, presso al tavolo, e cosa ne vuoi ti dico? Ho anche la giornata di radio, Giulio, non lo so, però sono quattro fatti, però così, mio figlio era in negozio, mi ha detto, c'ero io, l'ho sentito. Come stai parlando qua, chiaro, gli interrompi, la cosa è chiaro, c'entri, chiaro, mi ha detto, se puoi parlare, la cortesia se puoi parlare dopo la chiusura, perché entro forte, dice, proprio forte, chiaro, detto, come proprio l'interrompo, proprio la cosa, la pubblicità che fa quella cosa, anche se non sta parlando la pubblicità, entro, e se sta parlando la interrompo, e sentono a me, ma stavo dicendo, entri chiaro. E allora mi ha detto mio figlio, allora ho detto, ho spento tutto e dovevo parlare. Sì, ripeto, ma basterebbe probabilmente mettere un torrone nelle casse per evitare questo coso, anche nell'alimentazione è possibile, e perché no? Cioè lui deve pensare di chiamare un tecnico capace che risolva questo problema, non può pensare di farti smettere a te, perché tu hai tutto il diritto di stare all'apparecchio quanto ti piace a qualsiasi ora, non può pretendere, finché glielo fai una volta, due volte, per cortesia va anche bene, per carità, però non può pretendere che uno smetta definitivamente e aprire solo l'apparecchio quando lui si è chiuso, no, nella maniera più assoluta. Ascolta, volevo sapere, siccome ho cambiato il baracchino, però il microfono è sempre lo stesso, ma la differenza di radio c'è da quella di poc'anzi, da 10 minuti prima di adesso, a questa di adesso? Oh Giulio, io sempre se la verità non mi sono accorto di nulla. Io mi andate sempre bene, vai sempre bene, adesso io mettendomela al volo mi sarei accorto di qualcosa. Mi sembra sempre uguale a me, non mi sono reso conto del cambiamento, Giulia, della verità, non mi sono reso conto di niente, no, va benissimo questo microfono, so che stanno operando, però la radio è perfetta, meglio di così non può andare. Prego. Registrato il Greco, ok lui, sì, no, adesso sto usando il Tokai, sto usando, capito, il 5024, che ho mesi e mesi senza accenderlo, adesso l'ho tolto lì dal tavolino, infatti adesso c'è stata con l'antenna, nel frattempo che voi stavate parlando l'ho voluto accendere, tutto lì. Avanti Greco. K, buonasera. Ciao Giulio, buonasera Gigi. Poi non mi ricordo, anche se ho fatto un po' di ascolto. Avanti Gigi. Positivo, ciao Sandro. No, ci sta anche Guffo e Gianni, non lo so se c'è ancora, ho chiuso a Gianni, se non mi ricordo. Allora comunque c'è Graziano Guffo e c'era Gianni Doppio, non so se c'è ancora, e Giulio che ti ha fatto entrare. Avanti per chi vuoi, io so. passato. E capo, ok, dai. Va bene, saluto anche Gruppo. Ciao Gruppo, buonasera. Oh, oggi io stavo ascoltando, già dopo un po' che ascolto, mentre che svolge. Io sono arrivato a casa, adesso stavo a casa. Sì, ma tu sai che io l'ho avuto e mi ha creato tanti, tanti problemi. All'interno di guai, all'interno di più e di tutto. Da quando ho cambiato l'antenna, che ho messo la 1, non ho avuto più di questi problemi. Tu dici che sia che dipenda dall'antenna, poi io non so che dirti. Non lo so, io non so che dirti. Comunque, non è che ci sono sempre in radio, perché tu già lo vedi che non è che ci sono più di tanto. Volte accendo, ma se non state accendo dopo le 8, 8 e un quarto, 8 e mezza, verso quell'ora lì alle 8 e mezza, perché so che si è chiuso e che è chiuso quel negozio. E niente, prima devo partire anche al bar, capite? Invece adesso al bar adesso hanno cambiato qualche piano, non so cosa abbiamo fatto, non mi dico, anche se attacco un lineare, non le, invece prima suonava la palla perché entrava anche a loro, invece adesso hanno cambiato tipo di cosa, e non mi sentono, chiedo ogni tanto, ma mi dice no, non ti sentiamo per niente. Niente, solo il problema in questo negozio, solo lì entro, in questo negozio entro chiaro, proprio libero, come che fosse loro, un baracchino loro, che c'abbia un baracchino dello stesso canale dentro il negozio. Ho capito, sì, rientri diciamo nella fase audio, diciamo, che usano loro internamente. Ti voglio dire, ma all'infuori diciamo che non abbiano un impianto loro del mille fischia, capito? Tutto lì. Però io diciamo con quell'antenna ho fatto prove contro prove, tirata giù, cambiato capo, insomma ne ho fatto di mille colori. E all'ultimo quando mi ha veramente rotto le scatole l'ho buttata giù e da allora non ho avuto più problemi, tutto lì. Giulio, avanti. Ok, lo sa. Caspita. Non me lo dire, mi sa. Perché io l'ho presa, quella con l'antenna, la devo solo piazzare. Caspita, non me lo dire che il fatto di aver preso l'antenna nuova, proprio quella, la turbo, che poi mi possa creare problemi anche a me. Allora, in quel caso lì, la regalo a mio nipote, come già me l'aveva chiesto l'altro giorno, che lui abita a Carmugna e anche lui al Maracchino, e voleva l'antenna. Io ho detto, sì, vuoi l'antenna, te la do, mi lasci 115 euro qua, perché io ho pagato così, e se no non te la do. Già ti ho regalato qualche altra cosa, tipo anche il microfono, un apparato gli avevo regalato, eccetera. E adesso voleva anche l'antenna, la tubo, perché l'ha vista ancora imbossata, io non la devo piazzare. Stavo aspettando un tempo buono per metterla su, ma se tu mi stai dicendo così, io mi auguro che qua non è faccia di questo tipo, vai, se no allora mi tengo l'antenna vecchia, non faccio altro che ripristinare questa e muro sempre con questa, o quale sa. Giulio. E dimmi. Ascolta, io c'è un ragazzo che a Carbone a volte che è fatto in camion, che adesso mi sfugge il nome, non Manuele. Samuele, che cosa diciamo? C'è un ragazzo che è lì, in periferia, vicino proprio loro, è vicino alla strada, capo, che ci ha messo la stazione fissa, però non è molto forte, esce il coso. E a volte mi capita di che vado in quella zona e sentirlo. Si chiama e mi sfugge il nome adesso, e che non sia lui tuo nipote. Forse anche, non so cosa dirsi io o lui, nel volte si chiama Carlo comunque, si chiama, e dunque come nominativo, aspetta cosa avevo detto, cosa che non me lo ricordo più nemmeno, il nominativo dice, però il nominativo dice non lo uso mai, mi chiamano sempre per nome, aspetta cosa abbiamo detto? Ne conosco un paio, uno si chiama, caso mi sfugge il nome, e lo conosco, e si è incrazzato lì a coso, a Portovesme, con una ragazza lì che abita a Portovesme, che è la madre si chiama Rita, e il marito si chiama Braccio di Ferro, che bordano il baracchino lo stesso. E questo si chiama, è fidanzato, si è fidanzato una figlia di questo qua, uno di qui di Carbonia. Ce ne sono che parlano lì a baracchino, tre ce ne sono, e sono ragazzi, ce ne sono tre lì a Carbonia. Ok, non so quanto ce ne sono perché non le ho mai chiesto, no, ma questo è un ragazzo, non ha nemmeno 22 anni, 21 anni e mezzo, una cosa del genere, e dunque non è fidanzato, poi il padre non parla di questo, non parla al baracchino, anzi lo sgrida quando si mette al baracchino, perché dice che trascura lo studio secondo la linea di cui del padre, capito? Boh, non so cosa dirti io, lui, boh, non te lo so dire. Mi pare che c'ha una mantova uno c'ha, mi pare che c'ha una mantova uno, mi ha detto questo ragazzo. No, lui aspetta, che cos'ha? Un'antenna vecchia, ma vecchissima però. Se ricordo bene si chiama quell'antenna Firenze 2, molto vecchia, perché è un'antenna che l'aveva data, non so chi, lì un amico stesso della zona. Ma è un'antenna vecchissima di 35 anni fa, amico, no? Però funzionava bene, lui dice che andava bene, infatti volevo dire, però la voglio cambiare l'antenna, ha fatto ricompra per la detto, ha fatto regalare la tua, mi ha detto, se no però non posso rifare, ve l'ho fatta, guarda, magari non se ne trovo un'altra anche, perché già lo sai che stanno scarseggiando quelle antenne, e quanto l'ha fatto? 115 euro, e se no pure mi lasci 115 euro, io me ne sono regalando subito un'altra, ha fatto, no, regalamela, lei è tanto bomba, mi ha detto. Allora, questo ragazzo non abita proprio dentro Carbonia, è arrivato da Villa Massaggia, è arrivato verso Carbonia, quasi all'ingresso di Carbonia, da quanto mi ha spiegato, questo sto dicendo io, non è proprio dentro il centro di Carbonia, è più alla periferia di fuori, hai capito, all'esterno, però a Carbonia ma all'esterno un po'. No, questo abita proprio a Carbonia, non mi ricordo che via è, quando lo sento per telefono mi faccio dire anche la via, così se lo senti e poi ti dici se abita in quella via lì, e così poi gli parli di me, gli parli, io o lui, quando lo sento magari per telefono, tante volte ci telefoniamo, mi faccio dire la via, mi faccio dire, così tu poi te lo dici, ma tu abiti in quella via così e così, e poi senti cosa ti risponde. Ma io conosco tutti quelli che ci sono lì, detto, c'è Rita, questa Rita che è grandetta, è il marito nominativo del Braccio di Ferro, io ci parlo sempre con questa Rita, anche il marito conosco, è grandetto, miglia, può avere sui 65 anni questa Rita, non è ragazzina, è grandetta, è il marito sui 70 anni, già, è nominativo fa Braccio di Ferro il marito. Lo conosco personalmente, conosco questa Rita. Poi c'è Maurizio che ha Sant'Antioco, capito? Poi ce n'è uno, però ne sta cadendo l'antenna, che è proprio come giriamo lì all'angolo di Carbonia, però l'antenna ormai non c'è più, l'ha buttata giù il vento, quello non l'ho mai sentito. Però questi due che ci sono lì a coso, a Carbonia, li ho sentiti tutti e due, ci ho parlato tante volte, e più ce n'era uno che adesso non c'era più, il baracchino, che era fidanzato con la figlia di questo Rita, e non mi ricordo se era Manolo, Manuele, una cosa del genere di nome, questo ragazzo, sempre lì a Carbonia, che era fidanzato con la figlia di questa Rita, capito? Però non più, lo sentivo un 4-5 anni fa, e poi infatti ho chiesto un giorno, non ho capito bene se... che non forse non aveva più, non so, comunque era lì proprio lì a Carbonia questo ragazzo. Ho capito, non lo so, guarda, perché adesso non so nemmeno se lui esce col suo nome vero o se il nome sarà cambiato lì alla cosa, comunque mio nipote si chiama Carlo, ripeto, però non so se lui esce col vero nome, col nome nativo, ce l'ha un nome nativo, adesso mi ricordo virulino, boh, una cosa del genere, ci sono quelle consonanti, ci sono, una cosa del genere, non me lo ricordo come si chiama di nome nativo. Però non so se poi il nome di battesimo lui l'ha mai detto, se ha messo, dice, in aria il nome falso, questo non te lo so dire, la verità, o lui, veramente, non lo so perché non te l'ho nemmeno mai chiesto. Io ci sono andato un paio di volte lì, però ho visto che ha un baracchinetto, uno gli ho dato io, gli ho dato uno monolato, gli ho dato. Contentissimo, poi poco tempo fa gli ho dato anche il microfono, quello di legno, ho costruito, gli ho dato, perché mi si è posto in tanti angoli, mi si è posto, dammelo, finché si è riuscito a far salvare, vabbè, ve la giurate, pazienza, non ci sono problemi. Benissimo, ma è tremendo, quando viene qua sempre qualcosa mi chiede, adesso vuole un collo, vuole un rollmetro, e faccio il mezzo su lui, e beh appunto, perché ne hai due, dammi quello, dice, TMC, non hai il transmatch TMC 1000, no, quando non trovo proprio, più uno si sente raccontato l'antenna, fa anche, no, facciamo la milagro, no, però no, non hai capito che mi servono. E lui ci vuole, c'è sempre i mondelli. A me è un ragazzo, perché è suo giovane, è studentello, capito? Sì che cerca di buscare da una parte o dall'altra, capito lui? E quello che sta facendo lui non c'è più di 2 anni, forse di meno, ma non supera i 2 anni che c'è, perché prima non c'era mai, io facevo molto il sale da lì, da Sant'Antico, tutti e 2 volte alla settimana e non lo sentivo mai. E da un paio d'anni l'ho sentito questo ragazzo, questo nuovo, sto dicendo io, lì a Carbonia, da un paio d'anni, non di più, Beh, non posso dire quanto tempo c'è, ma la ricerca sarà così, sono 2 o 3 anni, penso, non di più. Allora c'è stato molto tempo che ce l'aveva e lui entrava qualche volta, così, ma proprio invece dice ne ho vergogna, che vergogna di avere entrare a baracchino, non ti vede nessuno, guarda, poi parla come parlano tutti quanti, dunque non c'è niente da avere vergogna, assolutamente. Cosa vuoi fare? Un ragazzo è studentello e poi va qui, ce lo vuole perché dice che trascura lo studio. Ma da qui da te, se per trascura lo studio butto da parte, metto da parte il baracchino, perché lo studio è più importante sicuramente. Poi quando ti sarai laureato, allora il discorso è diverso. No, boh, cosa vuoi che ti dica? Quando lo sento le chiedo che via è quella, perché non me la ricordo nemmeno. Una via un pochino stretta è lì dove si entra, ci passano 2 macchine, ci passano praticamente giuste, ci passano o lui, non lo so che via è. Quando lo sento mi faccio dire la via e così poi te la passo e poi glielo chiedi quando sei da quelle parti. Sì, ma ti volevo dire, lui mi aveva detto una volta che era lì all'ingresso vicino, mi dice no, cioè, io sono proprio vicino lì alla strada. È entrato, tu quando, non so se tu vai da Villa Massaglia, se passi da Inghilterra, dove passi, lo trovi entrando da questa parte, non dalla parte di giù, dalla parte opposta, dalla parte entrando da qua, quando vai da qui, da verso Sanz, tu lo trovi all'ingresso lì vicino, lo trovi, giusto? Allora non è proprio all'ingresso, è un po' più all'interno, non è all'ingresso, è un po' più all'interno. Io non è che sono molto pratico di Carbone, ci sono andato qualche volta, capito, ma non ho mai girato, non ci ho fatto molta strada lì. Se poco a poco mi trattengo un po', guarda, quando vado non trovo nemmeno la casa, perché magari non me la ricordo pure, figurati un poco. Non sono molto pratico, se fosse stato a Cagliari la conosco il lungo e il largo, dappertutto, o nuovo, lo stesso, l'istano, eccetera, eccetera. Ma proprio a Carbonia, no? Ho girato pochissimo, qualche strada conosco così e basta, capito lui? È positivo, no, perché questo ce n'è quell'altro che è all'interno, però che si vede da più di 3 anni. Invece questo nuovo sto dicendo io, quando mi ha detto lui è più vicino lì alla strada, che sarebbe la strada che sarebbe da Porto Vesme che va verso Cagliari, da lì è più vicino a quella parte, capito? Poi tu potresti entrare anche andando verso Sant'Antico, ci sono altre 2 entrate, entrare per Carbone, bisogna vedere se entri dalla prima entrata che trovi e scendi giù della via dritta, c'è di verso giù, le rientri dove c'è quel fornitore, passi a fianco del fornitore, non lo so. No, io passo da Coso, dalla sala Feliquitias, prendo quella sala lì e poi a un certo momento, aspetta, devo girare quella a destra, mi sembra, sì, poi giro a destra e finisco proprio nella zona per andare per la sua, capito? Tu sali da Iglesia, lo circpassi a fianco a Iglesia, tu passi in Villa Massaggio o passi a Iglesia proprio e sali da Cortoviane, quelle lì, quella zona lì. Esatto, break. No, io passo proprio da Costa, da Iglesias. Poi faccio o alcune strade lì che mi porta la Carbonia, capito? Scusa, Marco, che c'è il break. Avanti, break. Allora, sono rientrato. Buonasera a tutti. Siamo entrati in Urbi, buonasera. Proprio un... Ah, ciao, già, ben rientrato. Adesso sei a casa, però adesso non sei in macchina. Sono a casa. In macchina poco fa ho visto che le piante di asparago e mi sono fermato per vedere se ce n'erano, invece che di asparagi ho trovato attrezzi sicuramente rubati a qualche posto, ma ho lasciato tutto lì, me ne sono andato, me ne ho svegliata subito perché magari vedono me e comparo a me. C'era una frullana, c'era martelli, c'erano tutta attrezzatura a campagna, capito? Una forbice di quelle grandi da portare. Certo, no, lascia stare tutto già, non tanto a parte il fatto che magari queste cose vengono che servono, e poi ti metteresti nel pasticcio, non si sa mai, qualcuno lì ha portato per sta controllando, no. Ma mi sembra che c'è ancora Graziano, sì. Ma Graziano non c'è. Vabbè, dai, riprendi lui. È positivo, no, è perché se passi da Inglesia, tu fai dopo la strada stretta, connessa, sali Cortoviane, che dicendo, poi arrivato a un certo punto devi entrare per forza a sinistra, non a destra, perché il carbone è tratto da sinistra, se sale da Inglesia, capito? Tra l'altro via tutti i costi a sinistra a Carbone, capito? E come stai arrivando lì che ne sali da Inglesia, sulla tua destra, c'è un coso che lavorano in cemento, una specie di blocchini, cose. Se guardi lì più avanti, sopra il tetto, c'è un'antenna di baracchino, che è dove sono crollata, prima sempre in terra, c'era uno, c'aveva anche antenne da radioamatore, c'aveva pure sopra, e c'è arrivata qualcosa, e quello lo trovi proprio entrando, salendo da qui, le prime case che c'è un bar, se ne ho notato, c'è un bar a destra, dopo il bar, a destra c'è uno svincolo per andare dentro Carbonia, e per appena più avanti c'è questa cosa, fanno una parte di cemento sempre sulla destra, e lì invece guarda, sopra il tetto c'è un'antenna, e c'è anche roba da radioamatore, antenna normale da 27, e più avanti sono tutti gli inglesi per entrare a Carbonia, ma sempre a sinistra però, attenzione. Non so cosa dici perché non sono pratico, ripeto, della zona, Luigi, dunque adesso quando ci ritorno, non so quando ci andrò, sicuramente magari in estate ci andrò, una passeggiata già me la faccio con mia moglie, voglio stare più attento, per le strade e per tutto, non lo so, veramente, non sono di Carbonia tutto, non sono per niente pratico, guarda, conosco a malapena la strada per arrivare a casa sua, ma se mi trattengo pure tanto tempo senza andarci mi dimentico anche dove si deve passare, penso un poco. Loro si sono trasferiti da alcuni anni, stanno lì, io penso 5 anni abitano lì, perché prima non abitavano lì, prima abitavano a Sassari, abitavano, e poi si sono trasferiti lì a Carbonia perché il padre aveva trovato un lavoro, aveva trovato da quelle parti, aveva trovato, e allora avevano deciso di trasferirsi direttamente, e dico che ne fanno bene, fatto contenti voi, sì, almeno dice qua ho un lavoro tranquillo, fisso, non ci sono problemi, capito? Non so, voglio dire, io in questi 5 anni che non sono lì ci sono andato, mi sembra, 3 volte in tutto, non di più, 3 volte, sì. Allora sono andato 3 anni fa, poi sono andato l'anno scorso 2 volte, sì, 3 volte in tutto ci sono andato. Sicché non sono per niente pratico, capito? Non so nemmeno spiegarmi delle strade perché non le conosco, ripeto. Sì, sei andato all'inizio dell'anno, c'è una piccola modifica adesso perché tu giravi dopo San Luri, passavi per Samassi, entravi dentro Samassi, invece adesso neanche si entra più dentro Samassi. però prima adesso lo svincolo, prima arrivavi giù tu a Villa Santa, Villa Santa e giravi per San Massimo, invece adesso è molto, un paio di chilometri prima c'è lo svincolo, ho fatto lo svincolo nuovo e lì non c'è più, è chiuso, hai capito, c'è anche quel problema, lo trovi prima lo svincolo, hanno fatto una strada nuova e fanno una fa tutta una circolazione e non passi dentro San Massimo, passi fuori, che trovavi un passaggio a livello, a volte a chiudere le sbarre che sempre staccava, infatti il treno che scende da Cagliari, Oristano e Sassari, no? E mai viene. Adesso lì non si passa più, hanno fatto una strada nuova che è molto prima, lo svincolo, lo trovi molto prima sulla 131, all'altezza di San Luri, e di fronte proprio al paese di San Luri c'è lo svincolo adesso, sale su una rampa e c'è una strada nuova, fa tutta una circolazione e non passa dentro San Massimo e passa fuori e continua per andare verso i residenti. Adesso mi viene anche quello difficile e io allora cosa faccio? Quando vado lì nel telefono prego, vale, dimmi dove devo passare perché se no vieni qua a prendermi e nella una posizione dove mi trovo e non è che posso stare lì a perdere tempo a prendermi per strada o no? Figurati se tu mi stai dicendo che c'è stata anche la deviazione, già facevo difficoltà prima, adesso che c'è la deviazione è ancora peggio per me. Ma comunque, facciamo bene la faccia, vai Gianni. Il tonton ha preso una bella difficoltà, a me mi ha portato in paesi mai fatti, mai frequentati e mi ha portato proprio sul portone dove dovevo andare. Sì, già ce l'ho anch'io, l'applicatore già ce l'ho, sempre quello, vabbè. Ma sinceramente non lo uso mai. Io ce l'ho già da anni il navigatore, ce l'ho ancora almeno 4-5 anni, ma l'ho usato un paio di volte, basta, non l'ho mai usato, addirittura non mi viene mai in mente di usarlo, l'ho usato più mia figlia, delle volte quando mia figlia va in qualche paese lontano o a fare qualche valutazione di terreni, di case, di appartamenti, eccetera, no? Lui l'ho dato quando è andato ad esempio a Palau, quando è andata a Nubia, quel paese così, lontani anche, tra l'altro, l'ho usato più lei che io quel navigatore. Infatti adesso in questi giorni deve ritornare a Nubia e sicuramente me lo chiede di nuovo, me lo chiede, perché lo imposta e ti posta, dice, è abbastanza preciso, anche tu ne dai la via, anche il numero civico, guarda, ti porta a distanza di massimo 10 metri di distanza dal posto dove devi andare. Oh Giulio, io l'ho operato ieri per andare da Bari, l'ho operato io, ce l'ho portato appresso, l'ho operato per non stare a sbagliare. Oh, ci ha portato esattamente lì dove dovevamo andare e non c'è stato niente, non ha sbagliato nulla. Poi è di notte, al buio, non conoscendo, mai entrato in questo albero bello, in questo paese, mai entrato, mai arrivato, mai passato, almeno non sapendo com'era. Abbiamo messo il nome e la via dell'hotel, l'hotel, la via dove era, l'hotel numero. E Giulio, guarda, senza quel soccorso non ci saremmo arrivati, sono dovuto stare chi, se sono stati 7 o 12 chilometri, 15 chilometri, B, Ute, Gire, ci ha portato, arrivato a destinazione di fronte al portone della pesca. Io siamo fatti più manzano, l'ho programmato per l'aeroporto, via, dritto all'aeroporto, c'erano 60 chilometri, dritto addirittura all'aeroporto ci ha portato. Sì, no, è preciso, è uno strumento veramente utile, caspita, ma il mio si segna tutto, si segna quando c'è l'autovelox, quando c'è un defornitore nei paraggi, nella strada che stai percorrendo, insomma, segna tutto, è veramente in gamba, no? Poi il nuovo, ripeto, non l'ho mai usato, l'ho usato più mia figlia che io, se che ti puoi immaginare. No, è a Boso, in Puglia c'è andata quest'anno, o mia figlia è andata a cantare col coro, o lì proprio lì a Bari, e sono andati lì all'albero bello, sono andati, infatti mi ha portato una matita, che è un pezzo di tronco, un tronco d'albero, piccolino, sottile, e lei in realtà una matita che è possibile anche. È andato a vedere i trulli lì di Albero Bello, tutti quanti che cose, dice bellissimo, hanno cantato lì, ci sono stati 3 giorni mi sembra, sono stati che hanno fatto un concerto, perché canta in un coro polifonico, canta mia figlia, media avevo 40 elementi, 45 quanti sono, e ci sono stati 3 giorni, infatti io l'avevo accompagnata al Puma e poi sono andata a prenderla quando è rientrata con i bagagli eccetera, capito? No, già lo so, io ogni tanto si fa un viaggetto anche lì in continente. L'altro giorno è andata a una cosa del genere, un'altra città vicino a Frosinone, mi pare che, non lo so dove è andata, anche lì sempre per cantare. E adesso fra un po' devo andare a Pisa, mi sembra, non so se è la settimana entrante o l'altra settimana, devo andare a Pisa, insomma, questi biglietti che si fa ogni tanto, capito lui? Sì, sicuramente è andata a Orta. No, era proprio quello dove eravamo noi, ma non è che sono andato vicino di Trulli dove eravamo noi, dove che c'erano dei cori lì che suonavano, ma c'è i migliori qui. Sono andata lì dove eravamo noi, a questo parlamento di sfugge il nome, dove eravamo lui, quel coso grande, enorme, cavolo, che c'erano anche le brasiliane che ballavano addirittura lì. Basta che non è andata a questo posto dove eravamo noi, grande hotel enorme, con grande piscina, grande, ci sono tutti così di trulli lì. Infatti uno ce l'ho di ricordo, me l'ho portato uno, diciamo, sordini di un trullo. E ho capito, no, me l'ha portato, vabbè, lì siamo preso delle cosettine, ma così tanto per ricordo, sai, come quando si va fuori, sempre qualche cosettina come ricordo uno se le prende. L'hanno portato una matita, mi ha detto, sì, arrivo! mi ha portato una matita, che è un pezzo di tronco di albero, tu un ramo d'albero, ti puoi immaginare, no? Fatto una matita, dentro c'è la graffite, c'è tutto, una matita, tutta storta, tutta quanta con la corteccia e tal cosa, e c'è scritto a fuoco sopra, albero bello, c'è scritto, no? È un bel coso, infatti ce l'ho sul tavolino sempre in salone dove c'è la televisione, ce l'ho sempre di sopra, capito lui? Ma guarda, mi hanno chiamato laggiù, evidentemente per la cena, vai. Ciao Luigi, grazie della chiacchierata che ci siamo fatti stasera, è stata una lunga chiacchierata, un po' di tutto abbiamo parlato. Ciao Gianni, salutoni, scusatemi un po' state le volte, ma mi ha già chiamato, dai. Graziano, sia all'ascolto, non lo so, ci sentiamo le prossime. Salutoni a tutti, ascolto fino a lì e poi chiudo, riprende Gianni. Ciao Giulio, buona carica quando la fai e buona serata. Avanti Giulio. Ciao Giulio, dai, parte buon proseguo della sera, tutto la sera, ascoltiamo le migliori. Ciao. Ho chiamato Giulio invece che Gigi. Ma là, queste brasiliane ballavano solo. Allora, ha ballato per tutta la sera, poi c'era il karaoke, c'era una cosa, diciamo, una bella cosa veramente, bella. E anche un bel posto, ti dico, un bel posto veramente, questo. Le chiuse di Chiusa, una cosa che si chiama quella località, quell'albergo. Franco? Ehi, sono rientrata a salutare a Giulio, fate in tempo a sentirlo. Vi saluto là che io devo chiudere lui. E anche a te Gianni, saluto i circolatri, a tutti i componenti che sono in ascolto. Vabbè, era al telefono perché mi ha chiamato un amico mio da Fattana e non vi ho disturbato. Ok, ciao a tutti quanti. Ciao. Grazie, ciao, vai, ciao. Ciao, Graziano, ci sentiamo, dai. Buona serata. Ci sentiamo domani. Avanti, Gigi, di nuovo. Non è tratto. Sono stato così, abbiamo provato insieme, Graziano. Già, no, ci ho provato pure io, non gioco preso qualche mano, si può entrare. Boh, e ho dato 10 euro io per questa cosa. Ho dato prima il biglietto, ma ho dato 10 euro prima il biglietto. Se no, cosa succedeva? Perché se tu, cosa se no tutti se lo passavano questa cosa, hai capito dopo? E allora dopo col biglietto ti davano qualcosa, però non l'hanno messo, non ho capito come mai, no, ci ho provato, no. L'ho visto perché ho tanti amici che l'ho guardato e sono riuscito a vederlo, hai capito? Sono riuscito a vederlo lo stesso, sono entrato delle cose, l'ho visto da chi c'era lì che l'ha fatto il filmato. C'è cosa, Daniele fa una fotografia su, non si c'è fatto. Però ce ne sono, tra so se tu le puoi vedere, non penso le puoi vedere, perché non ce l'hai come amico Piero Vecchini, quello non ce l'hai come amico tu. No. Quello io ce l'ho come amico, come cose, lui che faceva valere le cose, però c'erano quelli apposta, quelli di questo studio apposta, con tutte le tipologie di imprese che fanno i giornalisti, che non so, hai capito? Che filmavano tutto, me l'invento, hai capito? Quella lì c'era, quella truppa lì c'era, capito? E quella truppa ti dava qualcosa di 10 euro, però ho pensato, in Bari, quindi a Napoli, non siamo andati a Napoli, tanto gliene hai fatto un pacco. Scusami, no. Ma voi in mano non avevate nulla, a casse cavate, CD. Cavato CD, io penso che funzioni così, a me mi ha detto questa cosa, che ce l'ho questo coso così, capito? Io ho entrato, sì, e mi dà la stessa cosa tua, non mi dà niente. Sono entrato la stessa cosa, però mi dà la stessa, anche il fatto che devi andare a fare tutto quanto, basta fare un coso, già sei lì, sei già arrivato. Ho messo anche l'albero bello, metti l'albero bello ti dai i trulli, e vedi i trulli. Sì, ma io sono entrato con tutto il dito, ho mancato qualche punteggiatura, perché tu prima la linea non me l'hai detta, poi l'ho messa, manco con la linea fa. Poi bisogna avere sempre se la linea è in mezzo, se è sotto, capito? Sono tante cose, basta la linea, un punto, non trova. Sì, ma noi l'abbiamo fatto preciso, io l'ho fatto preciso perché ce l'ho qua, poi il coso loro, il tappartello è fatto come è fatto giusto, il minuto, ecco, l'abbiamo fatto giusto preciso, con il mezzo, la trattino è in mezzo, dove né sotto né sopra, è in mezzo, e il puntino verso il puntino, fatto io, fatto due o tre volte l'abbiamo fatto, eppure non lo dà, è la stessa cosa che dà, è identica precisa. Allora, ma qui c'è un pacco, avvio. Ma chi lo sa, magari se qualcuno lo guarda e ti dice che l'ha visto vuol dire che c'è, io ho guardato quell'indirizzo e quell'indirizzo non me lo dà, mi dà solo i prezzi, i formati della fotografia e queste cose qua. Lo so, io l'ho visto come una marea di filmate stasera, di video, di foto, di cose, una marea di filmate patente, spente, tutto, l'ho visto perché più o meno sono quasi uguale come quella messo lì, però perché ce l'hanno messo gli altri, quelli che ho come amici io, Piero Vecchi, anche Telenovella, Fabio Telenovella e via dicendo, quelli, l'ho visto su quelli lì, capito? L'ho visto su quelli lì, poi ci sarà Giovanni l'originale che lui ha fatto un sacco di foto. Però io ti do foto perché non so se c'è una cosa grande, c'è una specie di fotografo, si è comprata, non so se faceva anche la videocamera, cosa faceva chissà, faceva un cannocciale davanti, non un uomo, se faceva foto e faceva cosa non te lo so dire. Il telefonino l'ha perso, quello che ha fatto il telefonino non li può vedere perché l'ha perso, è tornato senza telefonino. Ma l'ha pagato sul telefono, ma grande era? Da 4,80 l'ha pagato, è andata a vederlo preciso e così costava stesso. Quello che tutto faceva da GPS, da navigatore, da internet, quello lì che così con le dita, quello grande che gli aveva la costruzione in pelle che gli dava, forse si mette. No, forse lui è senza, però si può mettere questa cosa in pelle che fa da coppia sottile, hai capito che le vendono apposta. È il Galaxy era. Il Galaxy, ma sai che da fuori. Comunque costa quel modello lì che fa così costa 4,80, poi c'è andato a vederlo lì alla cosa costava 4,80. Niente, lui in aereo forse, boom, è brutto da combinato. Ma che me l'abbiano rubato alla tasca, ho detto, ma boom. E lui forse l'ha messo male la tasca, non lo so. Ma tanto non lo posso utilizzare lì, perché se lo blocca lo sgamano subito, come lo accende sgamano chi ce l'ha. Come se avesse lo sgammano, non ti funziona, ma io non lo so, lui comunque lui ce l'ha libero, c'è un contratto lui suo, mica hai capito, lui c'è, essendo trasportatore, una cosa, c'è un contratto, non so come funziona all'anno, almeno, non so, comunque c'è un contratto, mi hai capito, lui c'è un contratto che paga un totto alla non so quanto, comunque c'è un contratto con questa cosa, capito? E sì, cioè, più o meno tutti lo fanno così, anche io ce l'ho col contratto, conviene di più. Ma, non so, metterlo in tasca, infatti il telefono l'ho sempre odiato, metterlo in tasca, io c'ho il borsello, lo metto dentro il borsello e sto sicuro. Almeno, se non è che ti dimentichi il borsello, perdi tutto, oppure... sta più al sicuro, io mi sento più sicuro del morso. Posso lui il boxer marito, che cazzo vuoi dire? Dice che ce la beve in aereo, dice, ehi, ce la bevo, dice, ce la bevo, ha detto io non lo so, però no. Ha perso il telefono. Telefonino costoso, torna a piedi a tenere i numeri della persona di l'altra volta, stessa cosa, ha detto tutti i numeri memorizzati, non voglio più nemmeno uno mio, è un casino, telefono nuovo, questo da poco l'ha preso, perché che è accaduto, dovevamo, se ha memorizzato, io ho memorizzato il numero mio, nuovamente, che aveva perso, dove aveva detto, non te lo dicevo, scheda, non so come ti ha cancellato stesso, comunque gli era successo, e ha detto nuovamente. E brutto anche quello che prendi tutti i numeri, prendi i contatti con la persona, eccetera, eccetera, ma piano piano se ne becchi uno e lo dici e cose, poi già gira. Sono tanti rimanenti, anche a me era successo, ma non mi è successo perché l'ho preso, mi è successo perché la scheda non era smagnetizzata, che cosa non dava più i numeri. Positivo, no, a me invece è successo il telefono, invece di essere registrato nella scheda era registrato nel telefono. Tutto a un tratto, boom, sparisce il monitor del telefono, si vedeva più nulla. Boom, puttito. E cosa no? Se uno ti chiamava, squillava, potevi, però non vedevi chi era e non potevi chiamare perché non vedevi nulla. E allora ho perso niente. La scheda poi è stata un casino a farmi tornare il numero nuovo. È stato, man mano che le ascoltavo, per il tono dell'altro me la memorizzavo. Hai capito? Ma conviene sempre memorizzare nella scheda, nel telefono non conviene perché non avrei un più, se si rompe il telefono poi non c'è nulla, invece la scheda più rimane. È positivo, eh. Andrà bene già, ma che lo sono fatti? Pronto numero 5 scherzando. Positivo, dai, faccio un pochettino di coso, dai, io e vado a vedere la situazione com'è. Vediamo la situazione com'è. Beh, questa è stata una bella esperienza e cioè, è stato un bel divertimento, dico veramente, questa volta mi è piaciuto veramente, è stata una cosa bellissima, non in tanti quanto ce n'era, sì ce l'avrà bevuto qualcuno, che poi c'è, alla fine c'è il fuoco artificio, cosa bellissima, una torta enorme, enorme, ma enorme, ti dico alla fine. Guarda, siamo seduti alle 2 in tavola, abbiamo finito col caffè, con la torta e il caffè, abbiamo finito a 8:30 così, 9:20. Si sente di pranzare. Che nome di mania, non buchi. Vedi le tavolate, le cose. Vedi pesce a nastro, già prendi già con tutto il pesce a nastro da antipasto, capito? Il pesce, già lo vedi nei corsi, venivano col piatto, come dicono, tanti, c'è sempre un piatto grande, enorme sotto, e poggiamo sempre il piatto sopra lì, hai capito? E ha voglia da, guarda, da scoppiare. Appaga, vabbè, sono contento che vi siete divertiti. E vabbè, è un'esperienza che vorrei fare anch'io, se capita qualche volta quando sono in figlio da Baggio ci vengo anch'io, perché già mi piacciono queste cose. Poi quando c'ho le ballerine ancora di più. Oi, Giannarito. È una cosa impressionante, bello da vedere, belle da vedere, veramente belle da vedere. Quando ti ballavano il sedere in faccia, così ti inchinavano, avevi tutto quel filo che non si vedeva l'elastico, dove lo portai da dentro. Proprio all'ultimo grido, va. Giù. Proprio i mutanti dritti, va, vedi. Poi ti dico, di inventicare cosa è successo quella notte. Giù, c'è strano. Non dico niente, va. Vabbè, un divertimento generale, va. Ma io già mi sono coricato, già ho visto tutto, però mi interessava a me la situazione. E ho visto tutto, però non mi interessava. Sono in buce in mezzo, usci. Ah, io Giovannino e altri avevamo anche tomato cibo nel bravo, invece gli altri se devo raccontare a niente, se lo sapere da niente. Sai che da me non abita più vicino a casa. adesso abita vicino a te, così. Lui si è rimasto. Era stato tutto un po' anche lì. Lui si è rimasto male. Male, insomma. Di questa la notte dopo, no? Se siete andati in giro dopo, è stato una sera 2:30 di mattina. Sono tornato alle 2:30 di mattina. Con questa ragazza, che non aveva portato, che non portata lì. Era portata lì in albergo. Di quelle brasiliane. Piaccia che sei. Ma sei una cosa. Ma sono tornati che erano le due meno quattro, sono tornati la notte con questa qua. E da te. Sì, è stata più ingiusta. Andare, già va bene, non ti divertire così. Che non dico che magari veramente ascolta quando sei manchi così e cosa tu ma siete sicuri che io l'ho vista ma sottina e cose, ma siete sicuri che sta tirando bene, non era uomo che si fa così un travesti. Capito, è stato a toccarli, a farli, se sono già vicini, che sono trovate in strada, voi siete stati avvicinati, stava a tocca a tocca, e allora sono fatto un pub, cosa aperto, lì sono andato a bere, a fare, a cosa, da quando sono uscite dalle 9:30, no? E ne sono tornati a rinnovare con qualche commissa, invece, ne è tutta la gocca del mezzo. Hanno fatto il triangolino? E non hanno né dormito né fatto. La notte ingiusta era. Ti bisogna stare attenti con queste qui che ti contagiano neanche malattia. Ah, stai scherzando, vedo le ossa ingiottate, te la ciuffava, te la baciava, te la fattia in bocca, ti attaccava le due polpi, varietà, ma era la notte di fare l'aria, se c'era qualcuno di mio, io c'ero andato in via, ma non c'era da fissare. Ha detto, ma cazzo male. E metti di risolvere un capo di gomma. Quelli di Daniele Coso, no, per aiutare, non si sono fidati, non ci sono stati loro, chi tu sì, chi ti sa cadere un ritto, chi ti non si sono fidati. E non sa mai come sono, non rimane le 10, non ti ritiri nulla, ti raccontate della Bidimone. Da niente così, non fa, non sta scherzando, non sta scherzando. È raccattata da voi, raccattata in carriera, a lui? La stabilisce, io non dovrei essere di zitto. No, in camera mia, ma neanche scherzato. Poi, meglio se si riuscirà di non dice niente, non conviene. C'è che una ragazza seria, è un conto, che ti capita un'avventura, ma quando la c'è appiccata da uscire, come si è toccato, vuol dire che non è uscita per niente. C'è un altro bigliettino alla vista tutti quanti. C'è un altro bigliettino alla vista. Suo. Che fa la prefissibile assistenza agli anziani. E poi se c'è qualche cosa in più, fuori orario, a parte da pure. E poi si chiama Pasquagera. Che non c'è. No, Pasquagera mi fa. Pasquagera. Stamattina un cognome, da te, allora vanno a vedere. Ma questa qua non è proprio, era una prostituta, oppure era una tipa così che stava passando? Guarda, una persona che sta passando, una ragazza che sta passando, no, adesso c'è una 40 anni, che sta passando lì di strada, mi incontra ancora, e fa subito amicizia, e questa tocca tutti gli altri a toccare, e subito, si pone a ciuffare, si tira in pena, che non stiamo scherzando, subito attacca i bagnoli in polpi facenti. Ai, la carità. Fame. Che è questo che fa? Entrate, se questo è fame. Cosa è fame? Guarda che quello lì c'ha una moglie che non se lo merita, guardi. Visto. tante volte che c'è il pane non c'è i denti, che c'è denti non c'è il pane. Tu adesso, vedi, se era nascosto tutta la voce, tu non ci puoi più venire con noi. Sappi, Gianni, che tu con noi non puoi venire. E chi l'ha detto? Mi ha detto che tutte le volte succedevano questo, e questo è successo una volta. Cioè, per questo a me da poco l'ho accompagnato mio figlio al catechismo, ci ha visitato una tipa e mi ha detto che le facevo un avvolto che manco mia moglie riesce a cosa fare. Così dico il cugino. Positivo, ma no, no, no, ma tu devi essere scherzato, ma tu sei una persona, non sai chi è, sei un posto che non conosci, tu questa cosa deve, ma che donna è che una donna viene insieme, ti conosce da 5 minuti e si butta addosso a te, ma se le sai molto se questo è malato, lui se è malato, ma che cavolo e si butta fra le braccia subito così, ma quando va? E poi questa che mi ha detto cosa, ho visto la volta successiva che ha accompagnato Marco al catechismo, che era lì e c'erano due ragazzi che avevano una faccia a tutti, ci sono avvicinati i carabinieri e mi hanno chiesto i documenti tutti quanti, magari se avrebbe voluto di essere da nei giorni. Io ci sono rimasto anche un po' così, imbarazzato, la verità, perché non mi aspettavo una cosa del genere, me l'ha detto tutto appartamente, non come te l'ho detto io. Mi ha detto proprio ciò che facevo. Ma io gli ho detto domani mattina che è bussato, già io Gigi Vulca pieta, Gigi Vulca, guarda, detto, se domani mattina noi dobbiamo uscire qua, alle 5 stiamo partendo, che siamo stati alle 4, ed erano già le 2 e mezza e loro erano ancora in giro lì con questa qua. Ho detto guarda se domani mattina, ho detto, voi non siete in piedi lì fuori, infatti stamattina non so se hanno dormito, erano in piedi già fuori, ancora ero con il cazzo io. Ho detto guarda ma siete qua domani mattina. Tanto sono cose passeggere, non è né amore né nulla, un divertimento buco. No, ma gli altri l'hanno rifiutata, non l'hanno voluta, eh. Allora, ma la cosa che sta facendo la sveglia in testa. La cosa era più brutta e cosa, ma era dalle ore, ma la scena con le ore mie. Ah, il trenino era, ho capito. Ma tutto a posto, è uscito fuori. Adesso il bello è che lui è rimasto lì, cosa è successo? Ce l'abbiamo dovuto caricare noi. Per fortuna abbiamo fatto dormire là insieme a Daniele. Ecco cosa che succede a Daniele e altri qua, altri tre. Hai capito? L'abbiamo fatto dormire, raggiunto il nostro quartaggio di tutti perché non c'era cosa da dormire, non sapevo come cavolo andare, allora ci abbiamo portato noi in albergo lì, capito? L'abbiamo portato lì in albergo. E lì l'abbiamo lasciato però, non l'abbiamo neanche svegliato, l'abbiamo lasciato lì. Ma quel trenino non è venuto con voi alla cosa, era lì per lavoro. Lui non abita più in Sardegna, da qua se n'è andato, lui abita a Parma, è a Parma e tu. Capito. Ma c'è quello che avevamo parlato del fornitore, quello lì è? C'è quello lì. Quindi se n'è andato a cambiare vita, praticamente, chi mi ragunisce, e se no faceva figuracci in paese. E così ti vede la Tommaso è incapolato, perché Tommaso, poi prima di succedere qualcosa, va a battezzare lo figlio. Gli ha dato un figlio da poco, no? E sono pensato al fatto che ci manca. Che come se avesse fatto una moglie in città grossa, la conosco la moglie, è una persona per bene, ma per bene veramente la moglie. La conosco personalmente. E è capitato tante volte di passarci anche a casa sua lì dove abitava. Sono diverse volte, dai, poi la conosco la moglie. E niente. Doveva nascere questo bambino e doveva battezzare Tommaso perché dai, una cosa invece poi c'è questo fatto, se n'è andato questa cosa e questo bambino non so se l'ha battezzato perché Tommaso stava parlando anche ieri e non gliel'ha battezzato, ma non perché non gliel'ha voluto battezzare, perché poi lui ha fatto questo casino, il bambino è nato qui però poi non so se l'ha battezzato, se l'ha battezzato cosa ha fatto. che ci andiamo. Poi era tutta la sera e mi date il riciclo. Figlio Volcata, notte. Fuck. si preme, si imbaratta pure, è mobilizzato. No, lei voleva tutti, voleva fare tutti lei, mia attenzione. E cos'è, la che gagna il caro? Cos'è grazie, sì, non lo pagare. Ma pagando? Ma grazie, di cosa ha pagato? E allora era un linfoma. Ma lo so questo mira, comunque, no. Diciamo che è stata un'avventura da vivere. E così si però l'avventura è stata più per gli altri che si erano dovuta portare dentro camera loro. Guarda, ce l'ho uno oppure tutti quanti. Sì, erano tutti e cinque che erano dentro la camera. Ah, non sì, e l'altro se faceva il guardone. Non ho preso. Ma pensare che la camera era quattro forse, non quattro erano dentro. E cosa facevano gli altri? Guardavano. A guardare G, magari hanno partecipato alla mischia. Non so, io non ci sono entrate, non lo so, io è quello che hanno detto loro. Io non ho detto loro, ho detto così, poi non lo so. Per fare il bambino ragazzo, ho detto così, ma chissà, quando vedi, poi io non c'è di restare pronto a fare il guardone. Se ti serve quando capita che ci fai quelle notti fanno scherzo. Comunque ho lasciato il numero di cosa, tutti ce l'hanno tutti il numero. Avanza l'ingreffa. No, io ho sentito questa cosa, no? E quello è Roberto, cioè aveva queste colleghe che erano lì vicino. Seguimi un po', dice, cerchiamo le mie colleghe, se vengono a trovarci le mie colleghe, queste mie colleghe, che lavora su una buona cosa del Renifi, come si chiama? Si chiama lì alle Dolomite e ho finito la stagione, dice ma dice si chiamano, dice ma ha detto che vengono. Io quando ho sentito queste voci, perché stavano arrivando queste voci di donne, pensavo che fossero queste amiche di questo collega, di questo qua, di questo Roberto che era del posto, hai capito? E invece quando ho capito che era una che avevo trovato lì, ho detto no, ti da dritto. Sospettare che facciamo vedere che ci stanno, magari lui ci stanno. Siccome ho capito questa cosa io, no? Che lei stava chiamando, telefonando, gli ho detto che venivano queste amiche lì alla strada e che venivano al pranzo. Va bene, non c'era niente di male, venivano le amiche. Ma io la notte quando ero vista lì alle due che stavo, aspettavo che fosse, pensavo che erano da sole, pensavo che fosse amiche di quello là, capito? Ma non è che ha progettato tutto lui per la festa, e ha organizzato tutto, e ha detto a queste qua per organizzare tutto insieme, va? No, già, ho capito. Ho detto, non è che quello del posto ha organizzato tutto lui, no? No. E loro che stavano dicendo, dove troviamo, dove non le troviamo, a quello è, andate se ne trovate lì. Ecco, e cosa l'ha detto Tommaso, se sarete qua siete a fare, qua a Bari dice no, non scherzano, state attenti a quello che fate. E poi invece l'ho tornato con vista. Ha visto cosa fa, ma tutto il mondo è paese. Vabbè, comunque. Speriamo bene per loro, perché queste malattie venere sono sempre in agguato. E se aspettate quelle brasiliane che l'avrei aperto la porta, anche la finestra l'avrei aperto. E sono peggio delle altre, mi dico. Non lo so. Ma non è un bel corpo, se sono quelle come dico io. Ho visto le donne cioccolato a stintino una volta, quelle che ballavano con il fiabolo, se ti ricordi, cacao meravigliato, le ricordi? Sì, tipo quelle lì so, dalle piedi, me le vedi, le vedi qualche video, qualche cosa, dalle piedi ballando. E già hanno ballato poi tutta la sera, facevano il coso, si allenavano, un po' ballavano, poi le palle, poi si spostavano e passava quell'altro nuovo specie di biochetta in costume di cose che suonavano e poi c'era il karaoke e poi tornavano veramente quelli lì e c'erano sempre dalla mattina fino alla sera, alla notte quando si sono andati erano sempre lì. Cazzarola, ma a me lo spettacolo da vivo piace sinceramente, poi conosco queste ballerine e un'artista, non mi ricordo che un'amico si è invitato a ballare qualcuno del pubblico sul palco, la Macarena, è andato questa latte voce, tipo che lo chiamavano per soprannome, Mezzucchi, tutti i gatti così. E fatto sta questo qui, è salito, si è messo a ballare la Macarena, ci friava tutto quanto, tutti quanti, no, e poi si facevano tutte le foto, si abbracciavano queste qua, e mi fotografie che si sta giocando del Lugo, chi si sta trattando, poi giustamente chi si fa delle dracche, da poi vuole la fotografia, devono pagare la fotografia, no? E chi ti cantava le brasiliane, hai compreso con le brasiliane, fai qua, si abbracciavano i due, tre, le brasiliane, chi ti fa fare le fotografie, hai compreso? Tutto sono cose per fare sciude, ma questi qua erano degli intrusi, questi che sono venuti, oppure erano mandati sempre dall'albergo, o si sono intrufolati loro? Ah, le cose, no, sapevamo che c'era questo ballo, questo gruppo qua. No, i fotografi. No, tutto da lì deve essere, tutto già fatto lì. E te lo dicevano, ti mettevano il coso, se 10 euro ci avevi tutto il servizio, di foto e di video, di tutta la serata, capito? Io l'ho preso 10 euro, poi mi ha dato il biglietto e gli ho dato 10 euro, poi dice alla fine, si vedeva il coso, e beh, così mi ha dato quel tesserino che c'è quel pass. Magari non l'hanno ancora messo, capito? Magari non l'hanno ancora messo, vorranno metterlo ancora, perché mi sembra un po' fatto tutto per bene, non l'ho controllato, se l'ha visto l'indirizzo, il pulante, con un gatto. No, infatti, ma penso che lo metto, perché ci sono i numeri di telefono, c'è il numero di telefono e il numero di faccia di questo qua, insomma. Questi qua c'è il numero di telefono, cioè, e io sono capito, c'è una cosa, ma non è per le 10 euro, però, capito, io l'ho preso per quel motivo lì, ho detto vabbè, però ci sono quasi tutti perché l'ho già visto senza prendere quello lì, ho già messo i pubblicati, capito? Vabbè, sei andato domenico, possibile, domenico tu sì. Ah, lui, ciao lui, attenta. Cappa. Avanti. Io sento basso a Domenico, non so se mi sente. Non so se mi ascolta, ma lo sento bassino. E Domenico, oi. E Massimiliano. Massimiliano Bulldozer. Ho sbagliato io. E ma all'inizio sembravi Domenico. E io positivo. Perché ti sentivo allontanata con l'eco, quindi è la mia Domenico, in partenza. Invece sei tu in partenza verso casa? No, sono in partenza verso, diciamo, la mia suocera, che 10 minuti inizia il moto mondiale. No, chiedi se le ha viste le brasiliane in corso, Massimiliano. Massimiliano, ha visto l'eco le brasiliane che ti diceva Gigi? Io le ho viste io, sì, ho visto sia tutto io, le foto e tutto. Come puoi, ma dove le cercate? Su YouTube? No, non è su YouTube. Ma Facebook, no, basta avere gli amici in comune e le guardi. Ah, e vabbè, io c'ho Gigi Vulcano. Ma se non le mette sulla sua bacchetta te lo vedi Gigi Vulcano. Capito, tutto lì. Ma no, ci sono belli figli, io gli seguo brasiliani, insomma, io non gli c'è questa cosa. Del coso mio sei entrato a vederlo, Massimiliano? No, negativo, nella tua bacchetta non c'è nulla. Se tu non l'hai pubblicato, come fai a... Io l'ho visto da Piero Mecchè, l'ho visto da Massimo Radio Filocchia, l'ho visto da chi ancora? Massimo Albatros. Massimo non ha fatto poca cosa, ha fatto il fratello più che Massimo. Vabbè, qualche video l'ho visto. Poi le foto sono tutte uguali, là. Tutte con gruppo e tutto così. Va bene, ti lascio, che sono arrivato. Buona serata, buona continuazione. Ciao Massimiliano, ciao. Ma poi Gigi, grazie, io vado a mangiare, che è già tardi. Non ho chiamato. Ci sentiamo, dai, magari domani, perché tanto non avrei accesso, sicuramente. Ciao. ancora, ciao, buonanotte. Va bene, va bene, ok, dai, mi chiudo così, devo accompagnare l'orite dopo.